furti. Se li trovano la pagano grossa. Già lo so, adesso domani mattina vado e faccio la denuncia. Veloce, mi alzo presto, vado e faccio la denuncia e dico guardi, c'erano questi due che stavano tentando di aprirmi la macchina per rubarmi il baraccino e mi hanno messo le mani addosso, mi hanno picchiato e dunque, cosa devo fare? Ma lo dici di cucchi, no? E non stanno i tratti. Con qualcosa rotto, questo è garantito, perché dopo prendevo e con quel cacciato di mazzara baseball che c'avevo, che l'ho imboscata subito, già. Questo va, non fa fidarti. Ma 10 minuti, il tempo cazzo, guarda, stavo seguendo bene, cazzo sentivo tra tra tra tra tra tra tra tra tra. Cazzo detto, come faccio cazzo, non erano questi qua, cazzo, ragazzini, avevano avuto cazzo sì o no, 17 anni, 18 anni, quello. Sono stati mandati allora, da qualcuno che ha interesse a avere la radio. Cosa si ne fa di un baracchino se non modulano? Sono stati mandati da qualcuno per fregarti la radio. Adesso non lo so cosa fare, se rimetterne, non rimetterne in questa data baracchino in macchina, io qua sto temendo. L'ottoni, quando vai a casa l'ottoni, e adesso farò così sempre, quando sono io lo rimetto, quando prendo il distacco, adesso farò sempre così. Aspetta un attimino, un secondo. Diga. E quindi? Ebbene, cosa è successo? Cosa è successo? Stavo tentando la prima macchina. Ora, scusi voce, picchia forte. Già li ho picchiati. Sono sceso dalla macchina a bisbo. Thank you. allora entrò quello del cruscotto davanti, poi basta, no? E non si vede niente lì. No, ma non fa niente, tanto ce l'ha a casa, quando si è a casa muto lì. Adesso tanti qua dentro sassi, ma lo di ne vai. Io lo stesso, no. C'è la base magnetica, che non mi serve, lo metto, quando non mi serve non la metto qua chi, ma tutti. Con chi sei in radio? Chi c'è? Era Gianni che non so dove, si è ascoltato il canale, c'era anche Gianluca, però no, boh, non lo so. Non lo so dove sono andati. No, no ragazzi, sto ascoltando, attimo. No, non ci sto sentire Gianni, allora mi sono buscato, oggi sto facendo di Carbaioga. Ciao, no, ciao Leonci, non so se ci sono altri. Dai, sono qua io, adesso se Gianni magari è salito su a cercarmi. Ehi, a Gianluca, già sono qua. No, mi sono spostato perché Leoncino lo si è distanziante e mi sono spostato 5 minuti, però poi sono venuto a cercare che non c'è di più. A chi vi danno i zacchi e mi ruba l'acchi, non so se senti. Leoncino. Ehi, siamo due ragazzi con molto di noi, eravamo per casa. No, uno scotto nero, sì. E tutti e due bruni di capelli neri. Tutti e due capelli neri aveva. No, uno era con il passamontagna, uno aveva il passamontagna e tutti e due, non so se poi saranno tolto, tutti e due erano con questo passamontagna. Ma mi si cazzo, già volevo dire, si cazzo, sono sul passamontagna, che a loro altri si arrivavano, che non volevo ripicchiarti. Ehi, c'avevo la cosa, sono sceso giù con la mazza da baseball, hanno preso colpi tutti e due. Perché gli ho tirato a gambe, capito? A gambe, fargli male, a tagliargli queste gambe, capito? E io ho ricevuto un pugno in faccia, mi hanno fatto scivolare anche gli occhiali, per fortuna non si sono rotti, però loro sono andati con peso con qualche dolore alle gambe, te lo dico io. Grazie, sarà da me rompano le palle, grazie, non gli avevo chiesto un favore. Non è possibile, no, cazzo qua, no, non è più possibile a casa andare avanti così, no. Guarda, basta, non mi metto più in macchina, basta, c'è la figlia in culo, lascio a casa e se la gira e mi girano i coglioni tutti quanti, no, boh, basta. Finito Giuseppe di avere il baracchino in macchina, finito. Vabbè. Quando c'è preso quella moto di Novero, tu visti poi? Ehi, c'è un amici, c'è il toccato, mi raccomando, è arrivato tu. Ah, li hai mandati tu? Cazzo, io mando due amici, cazzo, colui che li picchia, quello. Che miseria, ragazzi, c'è. Ah, che cazzato, non fare cazzare di... Sì, mi fa bene. Altro che gli scherzi, è sbagliato. Devi chiamare subito la pattuglia dei carabinieri. Fammi intervenire che trovano due persone che ti hanno aggredito immediatamente. Però cercano, vanno a cercarti, guarda, se c'è l'aggressione, vai al pronto soccorso. Comunque loro li chiamano i carabinieri, e guarda, io sono qua, mi sono preso la macchina e sono sceso io e mi hanno picchiato. E glielo ho detto di chiamare il carabinieri, tocca andare domani. Domani non serve a niente, adesso devi chiamare, perché quelli si fanno un giro, hanno tutte le indicazioni, il primo ottobre non lo fanno, ho capito. Non vorrei che facessero un danno alla macchina, hai capito? C'è qualche scherzo, qualcosa, perché ormai la macchina l'ho vista. Che scherzo? Ci hanno venuto un po' dove era più per umani. Vorrei che facesse qualche anno, hai capito? Beh, chiami i carabinieri, vai, e raccontagli tutto. Quelli non te ne fanno scherzo, dici, ci vedono come te, se vuoi muguare, a buco. Lo so, e vabbè. Adesso mi vesto e vado in questura e faccio la denuncia. No, però devi telefonare subito, ti ascolti, io qua mi stavano aprendo la macchina, li ho trovati e mi hanno dato anche un pugno in faccia, sono fuggiti qua. in questura, dai, e vado a fare questa denuncia, dai. Giuseppe, la riga, tu chiama il 112, non si paga, chiami il 112, parli con il carabinieri e dici quello che ha detto Fabrizio, che cazzo vai e dici no, ti fanno una denuncia, che non te ne fanno, le denunce si fanno la mattina, non adesso, chiami i carabinieri al 112, il numero verde, non si paga, hai capito? Anche se non c'è una riga nel telefono, ti fa chiamare, chiami il 112 e le dici guarda io abito in via, le dai la via, l'indirizzo e tutto, mi stavano aprendo la macchina 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, sono sceso e mi hanno anche picchiato, che cosa devo fare? E si fanno un giro loro. E ti dico di andare a portare su una cosa a curarlo. No, glielo dici, ho chiamato perché sono attaccato della perché la faccia anche meno, ho caduto anche gli occhiali, no? Ma Giuseppe, ma è una cosa vera gli sai che è successa? Erano due con questo motorino, uno scooter nero, hai capito? Uno scooterino nero, hai capito? Giallo, qui ho due se devi fare, chi? Boh, devi chiamare il 112, subito, immediatamente, non devi andare da nessuna parte, chiami il 112 e le dici come sono tre cose, e tu dico loro cosa devi fare, no? Anche perché il testimone ce n'era, no? No, negativo. Ecco. Avanti, Becchi, buonasera. Buonasera, Claudio, buonasera a tutti. Antonio, buon cuore da questa parte. Cosa è successo, Becchi? Niente, niente, tu, niente. Non ti preoccupare. Già mi arrangio io adesso. Era neppure, era neppure. Pensavano a prendere una macchina e me la volevano prendere il baracchino. Allora, quando senti nei posti, dove sto sempre, non devi scendere così. Tu devi prendere il bastone o la manta da baseball o la mazzetta. Uno che lo picchi bene, perché non sbagli, altrimenti scendi. Altrimenti già lo sai cosa succede. Hanno preso colpi perché sono sceso con la macchina a pesco, quella che avevo la Ghero. Dunque, gliel'ho tirata a gambe, tutte e due. Però io ci ho rimesso un paio di occhiali, ci ho il secondo paio di occhiali adesso. A capo ve la dovevi sbagli, vedi che sbagli. A gambe non si tira mai, sembra appesa per non sbagliare. Perché a fai scendere lì e tutto si risolve. Ricordatelo, a gambe mai, a capo del sbagliato, se non ti viene a me, non ve ne trovo ricordate. Vabbè, dai, io sono di quelli che ci dai, ci sentiamo più tardi, dai, ciao, ciao. Ciao, ragazzi, dai, un bocca al lupo, dai, quello che è successo, sono così. Comunque, buonasera a tutti, dai, dopo, buonasera, ciao, e se ti trovo una a me, io ho rispettato, infatti, in due, gli altri. È come che trovino la morte, se la capo tutta la macchina. Claudio! Giuliano! Ma, Luca, che brutta vicenda! E vabbè, purtroppo, quando trovi i delinquenti, cosa ti fa? E la salute avrei staccato l'antenna, cazzo, ma è a... Sembra a capo, diciamo, in modo che lo hai capito? Anche tanta gente di merda che non vale più di niente. Io lo so, però intanto lo sono in qui, tu no, e secondo quello che le fai passi dalla ragione al torto. Un cazzo. Ti bruciare la macchina? Ma che ti credi che faccio paura adesso? Beh, a me non sia che sia il contrario. Non sia che sia un bene contrario. A me non mi piglia a capo, cazzo, a me la mani di culo, la canna di casa, non so cosa rendo idea, no? A me non ha tutti i nomi da nessuno, ma una cosa del genere, da questo un disastro, si era una muraglia navigata, si è fatto la casa e da questo si è un dopo. Non fare violento, cazzo, non fare violento. Violento, ma io guardo tutto, però questo è la prima cosa che ci deve essere. Rispetto, tu non puoi venire a danneggiare me per una cazzata. Cazzo, e poi mi vuoi pure pulire. Ho brutto malento. Lo so, dimmi già. Da poco che avevo staccato l'antenna, l'ha ritrovata Alghero, ha trovata uno con una Golf. Se non è che ci mi torna mandato ieri. Ma sei puro lì. Una Golf nera. Sarà sicuramente quello lì. Sarà sicuramente quello lì. Se non è che ci vieni ai nonni, magari ieri Alghero. Veniva qua, te l'ha portato, perché quella macchina che ho trovato io su a Serra Secca era una macchina nera, l'ho vista, però era una macchina nera, capito? Quindi te lo assicuro che era una Golf, non lo so, perché come ha visto a me è scappato, se ne è accorto, non mi ha sentito il baracchino, capito? Però era una macchina nera, quello me lo ricordo. Se non gliel'ha fatta a tutti, gli ha detto ordine a capo e lo diciamo subito i carabinieri. C'è chi me l'ha detto, a me chi me lo dice che era tua, a me me l'hanno venduta, chi te lo dice, aspetta te lo faccio vedere, la bestia e ve la iniziali, Leoncino. Ma sì, sia nel mirino, Giuseppe, stai attento, buca, ne tutto dalla macchina, chi non ti vuole assolutamente niente, capito? Va bene Gianni che viaggia, Gianluca che chi viaggia, che si sposta, Sassari, Porto Torres, tu sei sempre nobi, poi qualche volta vai all'Alghero, ma lo sai in affutti, lo speri invece di un giovacchino. Scusa un attimo, Vabbè, ma parte di sul discorso che io magari viaggio e vi scopo in macchina, certo. Se la sua lavora, secondo me mi lascia come la pongo dentro la macchina, l'antenna? Ma lui non solo è attaccato l'antenna che si vede da 4 km, anche il baracchino lasciato attaccato. Hai detto che questa mattina mi può prendere il baracchino qua. Si vede, è in mano l'altro bruscotto. Ma che ci vuole un baracchinetto piccolino, una 48, un baracchino picco, no? Perché ci va la zona, cosa ne vai? Dimmi Fabri. Scusa, ma quando avete detto chi è che l'aveva ritrovata l'antenna di Uncino? Qui. E non ha chiamato i carabinieri. Ma lo sai già qui. Allora, guarda, la prima cosa che devi fare ogni volta che ti rubano qualcosa è fare la denuncia. Perché se tu come ti è capitato a Andrea, e trovi che i carabinieri gli dicono, mi hanno rubato l'antenna, c'è la denuncia e sotto c'erano le iniziali. Guardi qua, lo prendono e gli mettono i filtri, lo portano dentro e gli prendono un nome e gli fanno il processo, capito? Infatti per direttissima devo fare o per accettazione o per furto, quindi questo potrà spiegare lui, se l'ha rubata lui o se gliel'hanno data e chi gliel'ha data. È chiaro che c'è una prassi da seguire. Boh, lui non ha voluto fare niente, non lo so. Giuseppe. Dimmi, cra. Allora, non sia di nuovo quello di Alghero che sa dove. Perché questi scooter neri, poi io che vorrei bassa montagna, deve andare a fare una rapina. Erano il passamontagna con uno scooter nero e le mancava anche la tanga da dietro, ha capito? Non hai chiamato i carabinieri, subito li dovevi chiamare, capito? Subito, immediatamente col telefonino, ricordi che il 112, 113, tutti i numeri di soccorso non si pagano, 115, non si paga niente, anche se non c'è una linea nel telefonino, ti fa chiamare perché sono numeri d'emergenza, capito? Sono diretti, sono collegati, quindi non hai bisogno di nulla, facevi 112, via, davanti a loro, arrivi alla pattuglia e ne ripicciava in un minuto. Vabbè, è andata così, vabbè, pazienza, non ci voglio più pensare, poi basta. L'importante è che non abbiano qua. E mi hanno per i coglioni che io mi tocca domani, mi tocca andare nuovamente da compare e fammi dare se ci trovano una serratura nuovamente, perché una me l'hanno è nuova, l'altra parte me l'hanno scassinata, capito? Ah, quello non è un problema, mi dice Lucchetti, quella gardena, lo sapevi quella gardena. Camadua. Giudeggia. Camadua. Tu. C'erano col cappuccio, avevano intento di fare cose, magari stavano passando lì e basta, e hanno visto la macchina e sono fermati lì, perché se avevano il cappuccio non penso che vada ad aprire la macchina col cappuccio in testa, boh. Infatti il pericolo è lì, capito? Il pericolo è lì che non si stanno organizzando per fare altro, ma ho visto questo attrezzo e sono fermati, il pericolo è quello, quindi bisogna stare attenti, ecco perché. È sempre meglio avvisare le forze dell'ordine, in modo che quella zona la battono un pochino e tengono sotto controllo tutto, altrimenti magari stanotte aprono qualche negozio, aprono qualche banca o fanno qualche casino in zona, capito? Qualche market, eccetera. Ecco perché. Capito? Dice anche cose delle suore, mi pare, quindi è meglio avvisare che la venire. Gente che ha detto di 12 anni che la prima macchina si pone un cappuccio, mi pare che non sia esattamente così, vuol dire che c'è l'intenzione un po' più brutta. Gianlu, cosa ne dici tu? Non lo so, io da quello che sto ascoltando qua, hanno a pigliare un'antenna, una cosa, poi sul cappuccio, cosa diavolo è? Magari sono recidivi questi qua e hanno paura di essere riconosciuti, ma magari come stai dicendo tu, cosa ci sono lì, qualche cosa di particolare dove abita lui, qualche negozio a rischio? Abita non molto distante da Gianni, quindi fare qualche scippo, qualche cosa, magari non le hanno attaggi, non passano, hanno visto la macchina, le hanno subito. Lui li ha trovati scassinando la serratura e gli ha detto, oh, cosa state facendo? E loro hanno detto, perché il padrone è sì, buono, non è tutto il cagnotto a fare. Dice già, deve ce lo ringraziare che non riesce a muovermi dentro la macchina, ringagnotti che la giù, si poco poco mi liberavo i bracci e che non riuscivo a muovere, il mio cognato è alto 1,95 quasi, e praticamente poi l'ha tolto fuori dalla macchina, no, non mi picchiare, no. Ha detto, tu adesso io adesso ti sto prendendo i documenti, dammi i documenti, e ha pirato i documenti, ha detto, adesso domani se tu non vieni, con i soldi in mano, perché allora ci mettevano le casse nei pannelli, ne ha saltato i pannelli della macchina, la macchina nuova, ce l'aveva poco tempo, se non vedi con i soldi in mano, io adesso ti dico quanto è, domani mi dai il numero di telefono, ti telefono, mi dico quanto è, devi portarmi i soldi giusti, non di meno, non di più, io voglio i soldi giusti per comprarmi i pannelli, e così ha fatto, lui era andato, dopo chissà, era furato di là. C'era un'officina di carrozzeria dove ci lavoravano, era di ancora c'è comunque gli amici, no? Da quando ero ragazzino, e ho trovato lo stesso questo rumano dentro la macchina, cazzo, e lì immagino c'è in carrozzeria tutta gente in cazzo di 25-30 anni fa, immagino un po' niente, e gliel'hanno presa, l'hanno portato dentro, hanno cuduccia giusta e gli hanno detto, ascolta, adesso tu, gli hanno preso i documenti, adesso tu vai e porti i soldi di questo qua, gli hanno detto, cioè tutto li fanno, adesso tu porti i soldi, ma non sono detto, sì, se n'è andato, è tornato dopo qualche ora con i soldi, ecco, non me ne era preso, non lo so, metto la televisione, l'hanno riportato, hanno incontrato un altro letto, quelli di Ciasusa, ogni tanto entrava qualcuno, ha detto che ha fatto la faccia gonfia e ce l'hanno mandato, altro che carabinieri. No, Marco l'ha detto, adesso ti sto prendendo i documenti, se tu dentro domani non mi porti i soldi, vado dai carabinieri e dico, dentro la macchina ho trovato questo, me l'hanno scassinato e ho trovato i documenti di questa persona, così almeno sanno chi sei. Così lo bisogna fare allora, così bisogna fare, ci si vede, e allora per la Roma la Gepsi, tutti non ce lo vengono. Perché se no mi ci fa male a te, tranquillo, tranquillo. Fabrizio. Fisso così dall'occhio, ma troppo l'occhio, è troppo in vista. Antonio Bombolo o Fabri. Praticamente è presente il 27-25 che abbiamo noi, no? Che stacchi il frontalino e la console mette dove ti piace, quindi la radio è doppio. Lui ha perché staccare la console, no? Cioè il stacca la console, ma perché il frontalino? Il frontalino fa da microfono, da baracchino, da tutto, e c'è praticamente solo il microfono con questo, con la tastiera, con il coso dei canali, tutto così. E fare una legge radio portatili, la picchi e basta. Adelante c'è bene. Se qualcosa del genere si vuole, capito? Se no, ormai stanno tentando, o li tenti e dormi dentro, oppure te ne freghi. Dici sempre che avessi un cazzo, a volte è venuto uno in un negozio di animali e praticamente gli ha detto se aveva dei conigli da darli grandetti, e ha detto cosa riservo, io c'ho solo conigli nani, e vabbè venuti a nani, intanto in un boccone se li mangio, cioè perché cosa servo, c'ho un pittone in macchina che lo tengo come allarme. Cazzo, invece di subofano, uiuiui, non ne ho detto di bittone, ma grosso baro. Non va da niente. Si è parlato qualcuno, non capito niente perché vi siete solo voti con Gianni. Perché Gabriele, mio collega, lascia sempre la macchina aperta e c'è la pitbull dentro. Vai a vicina di due. Solo io voglio entrare dentro la macchina, quindi se ne giurano la macchina ero io. Perché io lo porto in giro con me, viene al lavoro, sta sempre con me, anche quando Gabriele è malato, va a casa sua, io brinca giù, viene, tutto mi lecca, cioè mi conosce perché mi conosce molto, molto bene. Ma un altro, con me, con la stessa macchina sua, mi siedo, e lui prende, cioè, passa davanti, si esce davanti e sta lì, capito? Con altri, manco la benedizione, poi avvicinare che ti vai a vedere la lettiera, ma stai scherzando. Però non si può vivere così, cioè non è che uno deve stare cattivo lugare in macchina, o coccodrillo, capito? Non fa mettere giù 5, invece di lugare, come sta l'arma, va via ragazzo, lo va a pagarlo. Come ti da avvicinare la macchina, va a dire all'arlo, all'arlo. Cattivo, c'è un periodo che mangiamo sempre un coccodrillo, a Mario Mono di Pozzodora, come chiamano il coccodrillo. No, papà, un bello indiano era, sempre macchina per la via del strato, capito? Come tu vai per la macchina, io gli ponevo a bordo, ma proprio, e se lo fischiava, e lì si niente correnti, ma non c'è boccia, cioè, quello lo fanno le cartelle animate, capito? Le cartelle matte. Oh Giulia, se si ascolta, non ci vuole niente per fare l'allarme. Poi si mette un timer collegato alle aperture, attaccato al clacson, come il cabine col telecomando, di quelli ad udire, come si avvicina la macchina, suona il clacson. Lo vedi che fuggi. Gli americani a Santiago Novio, ma tu non li senti? Io li sento, ma non così, vabbè, con questo non mi sembrano di forti, 9 non ce li ho 9, adesso vabbè, non ci stiamo facendo caso perché qui arrivati tutti furti, poco fa infatti anche a Bombolino ce lo stava, gli stava dando fastidio. Sono 4:40 e sono stati americani a 9, 9, 5, 9, 10. Già, infatti, in certi passaggi a volte danno fastidio anche Antonio, però a voi no. Gianluca è un pochino più alto, quindi non ha problemi. Kappa, kappa. A poi c'è l'allarme, no già? Kappa. Ma senta, ho un caso, problemi Sì, sì, sì. Posso aumentare pure stare appena di più, mia salita. Posso aumentare pure se non è valido per esagerato? No, no, va benissimo, Gianluca. O così o come va benissimo, la grande. E Antonio che è 9 pieno, tu sei 9-10, quindi di su per lui è 9. E questi li sento sotto di lui, però le danno fastidio, capito? Non si capisce bene la modulazione. Perché c'è il microfono basso. Cazzo, io sono andato da altri arrivati fortissimo, cazzo. Hai visto? 9-10 era adesso, hai visto? Sono beranti, minchia. E sono l'effemero. Allora, se ci spostiamo l'effemero, gli chiamiamo, gli venta, gli abbiamo una birra e ti risponde io. Cioè, ha vinto la Germania, quindi sono tutti gasati. Ma allora io non ho detto due tedeschi che a rubare quella radio. Vabbè, che erano due tedeschi, no, per caso quelli motori non erano. Tedeschi, tu, sacca di romani. Proprio rotte. Ia ia. Capute? Hai visto Gigia? No, no, sono tranquillo, sono rilassato. Dai, si riposa tutti. Tanto mai lavori solo di mattina, no? E io. Mamma mia, cosa bella che è. Io la mattina che non riesco a impegnare, la mattina, se vuoi vedere il duto, sono la mattina, mettiamo un diamante a casa, fammi l'elenco, esco io a farti la spesa, piano piano, almeno vi faccio un giro. E Marco mio là c'è una risposta, vado io, non ti preoccupare, faccio tutto io, ti sto per impegnare la mattina. Perché poi la sera me la me la fotti nulla, ormai sono abituato, esco alle 2, so che il mercoledì e venerdì ci rientro, quelle 2 ore, però è quella, quel sistema di lavoro, cazzo, ma la mattina non faccio più. Lo so perché anche a me è successo. E dai meglio poi ti stufa, no? La stufa proprio, ti viene pure a rispegnerla perché ci sono troppe ore, e così. Le cose fatte troppo assiduamente poi ti scocciano. No, no, io già sto qui, a volte mi stacco un pochino, magari accendo il computer, abbasso il volume, se c'è gente ascolto, se poi mi stufo il computer dopo a entrare, capito? Sto sempre così, alla fine una rottura di palle, ma la mattina non ne accendo neanche, la mattina non ci sono in radio. Ci sono solo nel pomeriggio, capito? La mattina mai. Quando passano sono entrato, mi stavo cercando a Gigi. E basta, non mi accendo neanche la mattina io. Che avevo scelto a far pulizia, quindi quando va per terra, pulisce, io mi sposto tutta la radio. E basta. Però ce la faremo un paio di finestre, ancora un paio, tre finestre di camera da letto, le altre le tutte fatte. Però non posso perché mi fa male ancora la spalla, quindi se dopo il 22 mi danno magari un altro po' di convalescenza, piano piano la faccio, ma adesso devo tenere la fascia, quindi è un casino. Qui domani mattina mi compro questa pomata, me l'ho scritta, vediamo se mi assorbe un po' questo mattoma che c'è nel braccio, perché mi fa un male, che è allucinante. Ma allora, adesso sangue presto, così è. Ora Claudio, a me senti va? Sì, adesso sì, a tu. Ma ti sentivo anche poco fa, è la radio che era un po' bassa, capito? Quindi questi americani ti danno fastidio, adesso no. Caffa. Adesso va meglio, dai. Anche io via la radio normale, come uso sempre. 4 fatti normali. Va. Attaccati, allora, c'ho anche tutti i fatti aperti, Adesso sì, quanto è Gianluca, non c'è problema, ma ce li passi tranquillamente. Caffa, era ora, L'ora è molto importante, capito, perché questi parlano in FM, si intende detto che tu usci o che fa cosa e ti danno fastidio, invece così vai alla grande. Ho detto già, sangue e pesto, no? Eia, sangue e pesto sì. Che Se quello quanto è esteso l'hai matto, ma è meglio che te lo vedano, eh. Se è molto esteso, fatelo vedere, perché l'hai matto, ma io ho avuto uno, non ti volevo fare cagare, poi ho avuto una brutta storia per un ematoma, mi facevano due pendicellini al giorno, drenaggio aperto, con le garze che mi filavano dentro, poi le strappavano, mi facevano vedere le stelle, e mi hanno detto che i dottori si guardavano le faccia e dicevano no, come dire, non sta andando bene. Cazzo, io ero un po' preoccupato. 15 giorni ricoverato sono stati per un ematoma, non ti dico altro. Tutto per colpa del dottore che mi ha detto che con la pomata mi passava. E invece mi si gonfiava, mi si faceva biaitu, di tutti i rigurori. Poi alla fine un giorno sono andato con l'ambulanza a portare un paziente e l'ho fatto vedere al dottor Carter e mi ha fatto subito immediatamente fuori del ricovero. Mi ha fatto operare d'urgenza. Ma a me me l'hanno visto già con voi dottori. Dice, non ci preoccupi che è il colpo. Piano piano passa, non è molto esteso, però mi fa male il braccio già, mi fa male, dopo mi tocco, mi fa male proprio, è biaitumi. C'è il coso del sangue questo, poi c'è il livido, capite? È il livido che mi fa male. Ma io ero andato a casa di mia sorella. Vi ricordo che mamma mi aveva detto porta questi giornali a tua sorella che li ho già lì, siccome si scambiavano i giornali, no, per non stare a comprare tutti e due, uno li mandava a si comprare per dire oggi e l'altro gente eccetera eccetera, si riscambiavano una volta lì. E ho guardato questi giornali, era una giornata di pioggia, ma non ricordo ancora, stavo scendendo gli ultimi gradini via Camitta, proprio di fronte alla pizzeria del Gobbo. Stavo facendo quei tre gradini, ma li ho fatti tutti e tre, cazzo, con la schiena, sbattendo la schiena, cazzo, non riuscivo manco a alzarmi dal dolore. Mi sono adagiato sulla macchina, stava piovendo di notte, non c'era un'anima viva, cazzo, sono arrivato al lavoro, non riuscivo manco a muovermi, cazzo, passare il principale, dice, la vuoi la sedia a sedirti, ma sfottendo? Carità di Dio, cazzo, mamma mia, cazzo. Già, non te la prendere, ma non mi è simpatico. Hai capito, non è simpatico, più fa queste uscite di merda, cazzo, mamma mia, gara. E poi io stavo male, tu guarda, se me la dai mi fa una cortesia perché sto male, cosa c'è? E te, ho detto, sono caduto, cazzo, gli ho fatto la mano e ti ho detto, ah, c'è un ematoma grosso dietro. Poi sono andato al dottore di famiglia, ma tu hai passato questa pomata e 15 giorni ti passi. Cazzo, meno male che sono andato a portare questa cosa, se no mi ha detto chi mi ha aperto, chi mi ha fatto l'operatore, che avevo l'odore di una persona morta. Cazzo, non lo riesci. Allora mi dice che era un braccio, boh, non me l'hanno depisciato a me. Oh, vabbè. Non c'è da scherzare, no, ma comunque se è poco esteso non me fa niente. E il mio era vera brutto di bumbuglioni. No, questo c'è sangue e petto perché però è nero, ho capito, c'è cioè nero nel senso che c'è proprio la il coso, il livido che mi fa male, ma male, poi ce l'ho fasciato, non ci ho provito, boh, non è male, raga. Adesso vado, mi prendo la bustina, dai, sono già le 11:15. Arrivo subito, Gianluca, riprendi. Bene, vengo 3 giorni prima di morire, Clay. Cazzo, me lo mi ci dato. Ma tu cosa c'è, l'occhio gonfio o no? Come ti ha dato il pugno, gonfiato, dici? No, ma com'è, no. Ma quando mi ha creato il pugno, mi ha pigliato il triscio, capito, ma... Ero preoccupato per gli occhiali, non hai capito, però non gli ha fatto niente, perché come sono andati, cazzo per culo, sono andati sopra il coso lì, c'era un pezzo di cartone, sono caduti in questo pezzo di cartone, hai capito? E vabbè, è andata così, vabbè, pazienza, vai. Alla prossima volta, non ce ne sarà la prossima volta perché baracchino non ce ne esiste più, ma che alla oggi in poi, boh, finito, Giuseppe non se ne metterà più baracchino in macchina, boh, finito. ma perché ti devi privare tu delle cose perché gli altri ti fregavano? Non parli di una carabina ariana, adesso c'è il volume di Rudì. Allucinante. Una carabina puntata, come ti rivedi di Dì? Assassini, assassini. E no, qualche discorso giusto, danno fastidio a queste cose. Oggi, membro del gioco al mio. Ah, tu? Io la vorrei prendere, però lo sai cos'è? Che ne manca la questione di là. Mi manca la materia prima. Chiappa. E manco per l'ultimo che ho preso, come ti dove metti la base? Nascondere anche quello, almeno non te lo toccano più, non sanno manco che esista. Vabbè, adesso vediamo, dai. Vediamo un po'. Vabbè, dai, tanto... Vediamo un po' cosa fare. Già, mi metto d'accordo con una persona e vediamo un po', dai. Che forse ho telefonato a questa persona, la prossima settimana mi deve fare l'impianto di allarme nella macchina lì, hai capito? Dunque, tu la canica, e dunque, vedo un po' quanto mi fa spendere. E vediamo un po' quanto è. Che mi interessa molto di più, collegato direttamente al cellulare, hai capito tu? Allora, hai trovato, mi trova, perché cioè praticamente l'allarme suona nel cellulare, ci mette una sim nel coso, te lo, ti dai la sim, ti dai, e praticamente quando suona l'allarme ti suona il cellulare, hai capito? È un amico di canica che me lo fa, un meccanico di canica che doveva la portare la macchina, io uno che lavora lì a quella concessionaria di coso che prende le macchine della Fiat, hai capito? C'è un amico lì, mi ha detto Giuseppe non ti preoccupare, cerco di farlo fare questo allarme, hai capito? E chi è? Pino Ciobalbia? Chi è? Pino? No, è coso, aspetta, lui si chiama, è Piero Pirù. Piero Pirù? Piero, lavora, lui è, vabbè, lavorava lì a Canica, però l'hanno trasferito all'auto, ha capito, è capo meccanico là lì, all'auto. E lì dove vedo la macchina seconda mano, ho capito. Pinuccio, il custode è un amico mio. No, ma io l'ho detto a Piero, ha detto che diciamo, lo procurava questo allarme e vediamo un po' quanto mi farà spendere. Quello già gliel'ha fatta davvero, gli hanno rubato la moto al figlio, poi sono andati una domenica, gli hanno suonato il campanello. E gli hanno detto, se vuoi la moto scendi con 150 euro e te la diamo. E gli ha detto, sì, aspetta un attimino, sto scendendo, che se fa? De mudande in canottiera, gulo fusili da caccia, a garrigo. Anzi, come ti la rimetto, attaccare a gurri, ecco tutto in gol, prima di pulciare, gli ha che si zocchi. Quindi, come è successo? Cazzo, mi hanno fregato la moto a mio figlio, gli hanno lasciato la moto e sono scappato. Beh, giustamente a questa gente cazzo bisogna farli così, cioè, arrivato a un certo punto, la legge è normalmente ignoranza, però se la fai da solo, è arrivato a un certo punto. Sì, ma quello era pazzo, l'ho fatto anche all'auto Ami una volta con un collega, c'era il fucile in macchina e l'ha puntato in testa a casa. Sai che sono Gagliardi alla Muda, mi ha detto un altro amico che lavorava con loro, che mi ha detto se ci siamo Gagliardi alla Muda però farà arrestare, se no ci siamo per i carabinieri guai. Sì, per carità. Gianluca, avanti. E io ma l'ha detto un po' appena che appena va come il mare di due tempi fa come fa come è un po' pure questo cattolici americani, boh boh. Ma qua sono gli americani. Ah, ah, dice, oh qua. Ah, sì, già, mi tengo pure io, gra. Ma arrivini zinco, ma arrivini. Dice, vediamo lo cervello, rimane sgagliato subito. Ma cosa, americano fa lì? Ci vuole Walter, che è poliglotto. Allora, ehi, più che poliglotto è paraculo. Vero, diabolico, ci sei l'ascolto? La ragnostra. Gente c'era la sera, ho sentito un bel gente, anche Roberto Quadrato ho sentito io. Sì, Roberto c'era anche io, sotto la Roma. Meglio non entra gente che non entra mai, che pure non è valata, insomma, che è nato nel radio ai tempi miei, è chiaro che tutti entrano a salutare, eccetera. Ma lui è sempre attaccato alla KF. Sempre girando antenne, girando le balle. Ah, ma fa un po' di tutto, dai. A volte le piace la radio. Che sia VHF, che sia HF, che sia 27, sempre radio. Bravo, ma infatti è così. Quello che io ho sempre detto ai miei colleghi di Radio Maturi. Dice sì, completamente assente, no? Io ci sono sempre in radio. L'importante è fare radio, esserci poi, che siano in una banda o nell'altra. È così, dritto. Oh, la cosa che non mi attira, credimi, guarda che io ho un'antenna sopra il tetto che è a livello mondiale. Marco Scocchi ha girato il mondo con quell'antenna. Arrivo da tutte le parti e anche molto molto bene. Ho fatto a log country e neanche loro hanno, per dirti, no? Sia in V che in U. Sono attrezzatissimo, un'antenna, ma non mi attira, no? Non me la fotti nulla, no? Io me la sono presa per la mia sicurezza e perché non voglio che nessuno mi rompa le palle, se non manco preso non mi avrei. Ma quella lì di chi era? Di Marco, quella la direttiva? Certo che sì, quella è 53 metri di buccia. Quello che ce l'aveva da un tronicio all'altro, ma è un affilare full side si chiama, fa 10, 15, 20 e 40 metri, da 8 mm quadri tiene 3 kW con l'antenna. E ci posiamo di dipolo, là. Esatto, esatto. È un dipolo a polarizzazione orizzontale, proprio orizzontale, orizzontale. Parte da una punta all'altra del pass, è 52 metri e 50, ci vuole spazio per mettere quello, eh. E io non l'ho ancora finita perché ci vogliono almeno due o tre persone, siccome salire quassù molta gente non sarà assente. Adesso appena mi rimetto lo farò con Fabrizio, che lui non ha problemi di altezze, perché c'era messo levare il palo a una parte di telescopico, quindi io devo mollare e lui deve tirare sul palo perché devo ottenere almeno 6 metri d'altezza, invece a 2 metri adesso. Poi ci bisogna sollevare gli altri due elementi, prima da una parte, mentre lui sta sollevando io devo tirare la caducola perché pesa un trono di antenna, ma un trono. Poi al centro c'è un altro tubo che mantiene il ballon perché altrimenti può entrare in terra, si abbassa di quanto è pesante. Poi c'è cavo grosso lì, è stato fatto tutto con morsetti in acciaio, bulloneria in acciaio, non ti dico come è stato fatto, e quindi ci vogliono un paio di persone per tirarlo su bene. Una volta che lo tiro su a un piano di massa, tutto in alluminio sotto, e poi più alto è meglio lavoro. siamo già a più di 30 metri da terra, quindi dovrebbe avere un piano di riflessione almeno di 4 metri, adesso ne ha due solo, quindi sta lavorando al 70%, ma già i segnali sono tutti a manetta, mi sentono bene da tutte le parti. Però siamo sempre lì. La mattizia. Ma è solo una direzione puntata, non è che c'è il rotore, niente. No, quello è pulsante, quello prende quattro direzioni, una direzione, prende davanti, dietro e due lati. Ah, capito. Ma è buono. Senza avere il rotore, ho capito. È direzionale comunque in ogni caso. Sì, perché non è un dipolo normale, filo normale. Attaccate al filo sia da un lato che dall'altro, c'ha tutte delle barre, c'ha 12 barre da una parte, 12 barre dall'altra di polietilene, quindi sono degli isolatori verticali, capito? Dove fanno da proprio direttiva, 4 watt prende, 4 watt, non ha bisogno di... i tipici di fuori rotativi, no? Appagato. Avanti Gianluca, fa girare. Passa sopra, non ve ne è problema, se deve la mano me lo faccio a me, là. Non ve ne è problemi. È l'unico che mi ha dato la mano, ma tanto era Antonio, per il conto, Antonio per come alto e grosso, cazzo un cinghiale sopra il tetto, minchia. Mi sono fatto allucinante, quindi mi ha dato la mano lui inizialmente, capito? Poi all'angolo dove c'è il palo per tirare su, all'angolo non c'è problema quello interno, ma c'è l'altro angolo esterno dove c'è la parabola sulla strada, quindi quando sei sopra quel cornicione o non temi, o se no sei sotto, vedi la gente sotto, capito? Sono 40 metri, sopra lì sono 40 metri, è alto e... Gianluca è alto e quindi non ho mai chiesto niente a nessuno, a Marco quando glielo dico già le viene il coso su dalle mani, Marco mi ha dato una mano alle antenne, carissimo, sto arrivando, le sudano le mani, cazzo, solo a sapere che io non sarei sul tetto lui è già morto. Non ho paura, allucinante, lui le ha piazzate tutte Massimiliano. Anche con Massimiliano si può fare, ma è sempre incasinato, per trovare una giornata che è libero, non c'è problema. Dobbiamo tirare su quell'antenna e basta, le altre sono tutte a posto. Ho messo anche, tirato sulla manta, ho messo i tiranti, perché adesso ci voleva, ne ho messo tre, vanno bene così. È tutto ok, è tutto a posto. Solo che la direttiva, questa, la direttiva con i mantenimenti in alluminio, quella è a posto. Quelle per le VHF, i sandwich bisogna tirarla su, ma non ci vuole gente forte e gente che non torna all'altezza, se no questo è un magazzino, capito? A me ti chiamano la piazza della Duia, grazie, il vento a 120 km orari c'è. Signor Maestrari, madre di Dio, abbiamo rischiato lì, abbiamo rischiato di fare danno, di farci male. Ma c'ero io sopra, Luca Flipper, Natalino, tu avete tenuto il palo, se no ti vuole l'antenna che ti facciamo tutte le macchine. Ti ammetti che ci stava fregato, che tu ti sei buttato a bozzi, io non ti dico l'antenna, tu ti sei bicciato in rumba. Ma no, mi sei fatto a mettere una cosa. Gianluca ha piegato il palo, io ero sopra. Ma c'era questo venticello normale, Gianni, abbiamo la piazziamo, ma siamo in forra, via, e saliamo, in quattro persone, ma grossi, io ero molto più robusto di adesso, Gianni che è un bestione, c'è Luca, Luca Frippa lo stesso, Natalino, ero sopra, avevamo già finito tutto, iniziava questo vento più forte, oh, muoviamoci che sta aumentando il vento, arrivi di chi si raffichi, ma con i tiranti che avevo già agganciato i tiranti, mantenendo i tiranti di l'antenna che sennò che volava tutto, ha piegato il tubo. Con l'auto, ma chi va alla 32 di Lugano che è molto compreso. indicando un Market 5 con lo Market level di 200 in più Market 7 rotti euro. Minchia, che culo, e chi è questo? Dimmelo tu chi è, sforzato un culo solo era. Era mezzo puntato, mi ha partecipato là. Nuovo di zecca, guarda, guarda. L'autoparlante lo sai qual è? Quello grande con DSP. Non mi ricordo come si chiama, aspetta un attimino che te lo... sono su internet. Quelle... aspetta, forse non era il Mate 5, era il 1000, però quello con doppio WFO. Ce l'hai presente? Il 1000 MP. Il 1000 MP. Quello sono arrivato da 2000, 2500, vero? 1008, 2000, 2002. 4.100 euro un affare, avrei partecipato alla grande, porca miseria. Oh vabbè, così grandi io non ne faccio più niente, a me mi interessa anche un quadribanda piccolo, 11 metri e basta. No, così grande non c'ho posto, poi ce li ho Giorgia, cosa ne vai? Non ne faccio più niente. Che trigusia di tutta? Ma che te, cos'è, Sisa o BLD? Io babà. Ehi, di buono. Ehi, Giampa, ok, dai, se rientri già siamo qua. Ok, dai, stai con comodo. E vi saluta Giampaolo che sta un attimino mettendo la moto in garage. Allora, Claudio, è praticamente l'FT1000 HMP. Ma nuovo, più ci aveva. Allora, dotati tutti i suoi filtri originali, nonché del DVS2, che è la toppa, che è il filtro, dopo le MD200 microfono e l'SP8 per quanto riguarda l'autoparlante esterno, tutta la linea. No, non è a 1100, è 1210, mi ricordavo questo 10, 1210. Thank you. dici, non dire tanto, non dire tanto, e ci vuole pure un altro video. C'è da darvi quello che per là. Ma non puoi entrare. No. Ma non sono di grasso. Fai tra l'altro. Sì, perché c'è una data, una tabuglia di quello che non c'è, no? No, ma è colpa di uno, perché se ne vede un assoluto non vuole fare niente lui. C'è una volta una bottiglia, c'è una cifretta nella me e altri due amici. Non una cucina, ma erano tre parti già. A parte che è un ladro, perché è un ladro. Eppure. Ciao Luca Reis, mi hai sentito? Ciao Gianlu. Ciao, mi vita la mia, non chiedo, sì. Ma con una ragazza? No, che con la mia Daniele. Questa Daniele e poi gli altri due di altri. Con l'amica è quella già. Vabbè, si l'hai abbracciata con l'amica, non mi fa. Attimo più bello l'hai abbracciata, bocca, bocca di più. Non ho capito, cos'è una minca? Ma buona è Luca. Buona è. Sì, già andava, ma Luca era, mi faccio avere la vista. Io l'ho vista di sfuggita, non è che ci ho fatto posto qua, ho visto che ho due ragazze, però non è che una biondina ne ho visto e non ci ho fatto molto caso, la verità. Non posso dire, però mi è sembrata abbastanza tranquilla. Se no mi sarei spaventato. Bugia mia, cosa dell'altra, ma direi che noi cioccolato di qui. La metti in frigorifero perché la vendiamo anche fresca. Se ci permetti scompare. Blu! Peroncino costa di più, Ecco, la vecchiaia in casa si non pace. Cazzo di averlo. Quindi c'è che le dobbiamo richiedere noi. tutto lì. No, ma a me mi sazzeva così, ma a me mi sazzeva il travagliare. Sai cosa, prenderò qualche cosettina a novembre, magari, quando devo salire su al concorso. Sempre che si farà quest'anno, perché lì è crollato tutto, c'è stato il terremoto, ha distrutto un muro lucroso di sogano da cantare, ha imbarrato mezzo mondo ammirandola, ci sono fatto un poco di danno, e niente, prendono qualche giorno quel periodo lì, magari anche a settembre, se tiene il tempo, che mantiene il tempo, che è stabile, guarda. Secondo me le ferie sono più belle farle o prima di arrivare il caldo che ti bestiale, diciamo così, maggio, giugno va ancora bene, solo dopo a settembre. Guarda, io ti posso dire una cosa, l'anno scorso no, 2 anni fa, ma per questione proprio d'ufficio, perché eravamo talmente tanti, tutti che chiedevano le ferie nello stesso periodo, io le ho prese la prima, cioè la seconda tranche di ferie, la verità, perché una parte le ho prese a luglio, l'altra poi tutti ad agosto, devono andare fuori, vabbè, a me non me ne affrute, fate quello che volete, io le prendo a settembre. Ho preso queste ferie 2 anni fa, la seconda settimana di settembre, sino a metà settembre, da favola Gianlu, da favola proprio, sono stato benissimo, perché ho trovato il tempo bello, e poi quando andavi al mare, per dire la mattina, perché andavo solo la mattina, così 2-3 ore, tanto non aveva nessuno, perché la gente era tutta al lavoro, capito, le scuole erano già aperte, ti dico che stavo da Dio. Più bello sono quel periodo lì, se mantiene il tempo, guarda, come hai detto tu, la maggior parte delle persone rientra al lavoro, così che non c'è quell'affluenza nelle spiagge, ma guarda, è bellissimo, settembre ideale, o se no il primo mese di proprio giugno, dai, finito maggio, come sta incominciando adesso, che sarà i primi di giugno, andava bene dai primi proprio così fino a metà mese, se uno ne ha per esempio di un paio di settimane, 14-15, dopo si rientra, e dopo magari si potrebbe fare com'è a settembre. A me piacerebbe anche il periodo natalizio, magari, avere qualche cosettina lì, magari, che non sono... Una volta sola sono salito da mia sorella su, per Natale, ed è bello lo stesso lì, anche mi fa freddo, ma porca miseria, Vabbè, tu già mai ne hai prese a settembre le ferie? Sì, una volta, quasi sempre, prendevo a settembre prima. Ma prima il tempo era migliore. E l'altra faccia che faceva un po' tempo in luglio, poi andavo a settembre c'era un bel tempo. Ma la prendevo a settembre perché il periodo che le orate sono grosse, eccetera, eccetera, fanno le uova quel periodo, quindi... andavo a pescare, nel frattempo facevo anche il bagno, portavo l'arcolino, lui giocava, io pescavo, e un bel giorno ho preso una bella lagna e non ho avuto modo di cosa di staccarla perché punge, come tu sai, ho staccato solo il moschettone e l'ho messa in terra di modo che volisse, no, senza... Mi ha fatto che c'è la mia sotterranea, sotto la sabbia, queste donne che cercano le conchiglie, se passano dai gruppi, e non abitano in piedi, dicendo, non mi rincuento. C'è stato quello, ha sembrato un dubbio, ha fumato la in terra, e... è chiaro che, guarda, è una puntura allucinante quella della lagna, ma proprio, è proprio il nome stesso. Diventi lagnoso, cioè un dolore allucinante, io l'ho provato, mi si è gonfiato tutto il dito, guarda, è micidiale. Senta le break, Gianni. Avanti, buonasera. Papà, buonasera, volevo scusarmi solamente per essere entrato a non aver salutato prima. Saluto tutti gli amici in rotta, ho sentito qualcuno, non tutti, mi scuso per essere entrato un po' così di stravaganza. Per aver fatto poi segreta senza presentarmi. Da questa parte Antonio Brode, riprendi Gianni e comunque QRX per me rimango in radio ascolto. Non c'è nessun problema, tu vai. No problem, se vuoi restare non c'è nessun problema. ciao Antu, ben sentito. Parcheggio lì, no, caso che retromarcia, già piano piano, devo entrare in retromarcia. Sì. Allora, no, mi sa che mai tenne internet ha già pagato me un poveretto del radio 4.40 già ne stanno mettendo, ma non mi fida assai, No, no, no, no, allora lascia perdere. Ha preso un amico di Alghero, se voglio salire il gatto, tipo che si vuole brigato tu me, tipo quello che hai preso tu, Giallo, capito? Così, però, ha portato una scelta, l'hai presa due lire, tre mesi a posto. Questo l'hanno mandato che non voleva visto, non voleva visto, ma neanche quello che c'ho io a pezzi di ricambio, guarda, in quelle condizioni, perché non ho visto il mio, purtroppo è bruciato internamente, però l'ho tenuto e ciccio. Questo lo sto usando adesso è come che sia uscito dalla fabbrica, non ho visto. Però non ti fidare perché ti hanno mandato di nuovo a Mondessa. Mondessa, ti fanno avere le foto di una radio e poi praticamente te ne mandano un'altra, capito? E poi te ne mandano un'altra e quindi è un casino. Se riesci a comprare, compra su siti ben messi, capito? Ce ne sono tanti, consultano via Globe, c'è Franco che ha delle bellissime radio, quello Magic Phone, c'è anche la Tecnocomunicazione sta iniziando a ritirare qualche HF, perché ho chiamato io l'altro un giorno che ho ordinato un altro alimentatore, e insomma, vedi un po', ma non ti fidare molto sugli HF, non ti fidare molto perché sto mandando buona Mondetta a Giallo. Non so che fate su YouTube, ho una roba bella immacolata, è nata la fotografia. No, c'era, proprio c'avevo, ce l'ho avuto, guarda, e l'ho dato, l'ho fatto in cambio dello IAS, del 757, no, questo qua, di un altro modello, il 725 della Icom, è piccolino, compatto, ma bello, guarda, funzionava bene. Attenti, sì, l'ho avuto il 725, sì, è quello color verde come l'Icom che ho io, base VHF, stesso colore, davanti c'è uno sportellino con gli slider per il processore, per le cose, molto bellina come radio, non funziona neanche male in AM, non funziona neanche male in AM, certo che l'Icom danno sempre a desiderare, vanno bene, ultime macchine, però hanno sempre questa timbrica che a me non piace. La timbrica Kenwood è sempre un'altra cosa, sia quella del 140, delle, insomma, le radio che conoscete. Però ci sono alcuni Icom che come il 725, il vecchio 751 America che funzionava molto bene, il 27. Va bene, Gianni, mio spagnolo, mi vamos. 30-30-30, amico. È domenico, amico. Ecco, c'è domenica oggi, via Lendi. Vabbè, domani è lunedì, ma resta per te. Domenico ci sei? Sono delle macchine che hanno pochissima differenza, però è chiaro se vuoi toccare quella esuberanti, capito? Proprio stracovarati, mi sa sarebbe. A 1389 MP, adesso domani lo chiamo e faccio la proposta, che ascolta, se mi ritiri l'850 mi mandi l'MP, mi ritiri l'850 600 euro, te ne mando altre 700 e mi mandi l'MP. E mi dici no, sempre che mi dici no, perché di 850 ne ha altri, capito? E quindi non te lo ritira. Comunque ora abbiamo fatto la proposta, non che ne è molto mi fa, non te lo va a dare così, no. Se lui vende senza ritirare è meglio, però a fare usato per usato, no? Come le concessionarie della macchina, è difficile che te lo facciano. Non sai cosa, magari gli 850 magari potrebbe interessare. No, non ce l'è qua, non le sto guardando gli 850, non ce l'è. Non ce l'è Claudio 850. C'è il 736 della Yaris, che è bellino, 450 euro. No, ma io mi cazzo a comprare, no. Aspetto, no. Trovi casini secchi, va. Trovi anche il grosso barugambo, qua. Però per dire, come stai dicendo tu, se uno ha intenzione, sì che aspetta, compra veramente delle belle macchine. Una che mi sono pentito di non aver preso e a 600 euro ne voleva, ma sicuramente ci saremmo anche messi d'accordo. Tu l'hai conosciuto della Yaesu 767, che è più grande di questo che sto usando io, questo è il 757, il 767 rimane più grande e autoalimentato con l'accordatore incorporato. Quello deve essere stato veramente fenomenale come modulazione. La versione di quello, il 767GX, è la versione addirittura quadribanda. Quindi c'è VHF, HF più 50 mega, è bellissima quella radio, penso che sia la miglior radio in assoluto che ha fatto in quei tempi, quindi nei tempi è uscito il 757GX2, è più bello in assoluto la IAS, è bellissima esteticamente. Tu immaginati il tuo, il 757GX2, o anche il GX in formato praticamente doppio, perché è il doppio di quello che stai usando tu, è simile all'850, vai, come stazza è simile all'850, bella, gran bella macchina anche quella, gran bella macchina, però, siamo sempre in chimica. È un grande investimento quello della radio, non si può, è una rottura di palle, se vai aggiornarti con queste cose, sicuramente ci rimetti sempre. No, ti volevo dire Franco, anche se non ce l'ha l'850, perché ne aveva tre, uno l'avevo preso io, gli altri sicuramente li ha venduti, usato per usato ne fa poco, a meno che proprio non abbia l'acquirente che dice guarda, ho le telefoni tu, Gianni, Tizio, e le dice guarda mi serve un 850 nuovo, bello, è questo, di pacca, ecco allora lui ti telefona, sei ancora d'accordo a comprare quella radio, sì, ecco la mandamelo l'850 perché c'ho l'acquirente, ma se non ha acquirente non te ne ritira, è un canimuccio, proprio rotto. Allora ne approfitto per salutarvi, dai, non avevo tutto qua da andare. Buonanotte a tutti, volontà ma compagno domani per chi lo fa, e invece buona dormita per chi può dormire. Ciao a tutti, buonanotte. Quelli a un braccio già. Ogni allusione è probabilmente caduta. Ciao di nuovo aria. Sì, anch'io ho fatto il prezzo, fa un po' la mamma anch'io, Ciao già, ci aggiorniamo domani. Buonanotte, grazie delle due chiacchiere, Gianlu. Sì, Eugenio, ti ho sentito, aspetta un attimino, perché stavo salutando un coso. C'è anche B2, un attimino che ha beccato. Ciao Gianni, buon riposo, dai, buon tutto per domani. Sì, Claudio, hai detto proprio bene, la versione è quella della quadribanda. Cazzo, ma veramente proprio il disegno proprio era spettacolare. Secondo me funzionava anche altrettanto bene. Dai, vediamo se c'è Eugenio. Allora, deve essere spostato di canale. Sì, adesso me la rimetto. Yaesu G. No, FT, non G. FT si chiama. FT 7. Chi c'è? 7, 5, 7, 7, 6, 7. G, sì, lo stesso. professore, là. Ma guarda che altra è bella. Proprio bella, è bella, bella, bella, proprio. Cioè, tutti, cioè, vabbè, a parte il discorso che è autoalimentata, che già va lì da attaccare a 220 se andelli. Ma è veramente bella, qua. No, mia. Profumato, zia. Cioè, cos'è il trattato? Sciampone di Marsiglia? Non so se lo conosci, Pino Silvestri. Silvestri? Era mio carissimo amico. No, sa che come un carissimo amico, lui è il bagno schiuma. Ho capito, ho capito. Il bagno schiuma lo shampoo, Pino Silvestri. Ci metto poco io, anzi non va mai che bello, tu vedi sciamponato e cose, lavato, messa tutta la roba pulita e via. Ti ho capito, Pino Silvestre, esce, è come il tegito di intima di carizia. Gianluca, a mentelle. Copia bombolo Gianluca adesso, che ha aumentato un pochino la potenza. Sì, c'era Gianato, a nanna. Luca, metto che vanno a prendere qualcosa di fresco, forse ha mangiato lo ghiaccio. E non è entrato più. Allora senti Gianluca. Negativo, non sai perché, perché si sta sollevando la propagazione da me. Roba 18 sono rivendichi, scrivi. Già le tengo io, quando mi ha preso il tutto, che te lo diente. Te cuffia, te cuffia. Guarda Gianlu, di quel periodo ti posso garantire, ma io già sei venuto qua, le hai visto le foto, senza raccontare balle, ma di quelle radio le ho avute tutte. La serie Iaesu era una cosa spettacolare. Era spettacolare perché erano fatte in una certa maniera, poi sono delle macchine eccezionali. Le prime addirittura erano proprio belle esteticamente, con vedi 757, piccolino, Procial, il pomello delle WFO con col supportino in gomma, cioè tutte quelle rifiniture, e nel piccolo rispetto ad un'altra HF di quell'era è molto bella, anche 757 è una bellissima radio, è costata anche una barca di quattrini quando è uscita, perché io l'avevo presa nuova, la linea completa c'era anche sulla foto che facevo allora le radio, adesso non ne faccio più una fruttinuta, ma avevo preso tutta la linea completa che era il 757 GX2, appena era uscito, il suo microfono a tavola che era l'MD1B8, poi avevano fatto l'MD1C8, e l'alimentatore con la colonnina, che praticamente l'alimentatore era un pezzo unico, c'era l'alimentatore e colonnina tutto attaccato, ma era molto molto bella, di colore poi grigio scuro con la colonnina davanti con la rettina blu. Era molto molto bella come radio, e molto bella è quella che hai detto tu, 767. Adesso la Iaesu ha proposto il 787, che è simile al 767, sempre quadribanda, però è la versione a 200 watt. Sì, sì, ho capito. Il 787 hai detto? 787. Sì, quello che stai dicendo tu ce l'ho io, la linea completa è questa qua che sta adoperando qua. L'MD1 l'avevo dato perché non mi piaceva, ma sicuramente l'avevano toccato, e allora mi avevo tenuto questa qui, e il coso, l'accordatore mi mancava, l'alimentatore da 25 A con la retina blu, l'autoparlante corporato, Iaesu FB 757 HD è la serie, quella lì. Quindi ce l'hai, vedi che io mi ricordo la memoria delle cose, molto bello, sì, un grande alimentatore quello, intanto perché ti 50. Vanno molto bene perché sono a stabilizzatore, poi hanno l'autocontrollo, quindi nel caso dovesse andare in corto qualcosa va in autoprotezione. E i soliti alimentatori di linea, vai, i soliti alimentatori di linea. E di quella serie lì era praticamente la serie che poi io ho dato a Giampaolo. Infatti 250, 430 la colonnina, quella serie di sempre. In quell'anno sono uscite tutte quel tipo di radio, che sono alla fine del mondo, vanno molto molto bene. E se tu vai a prenderle adesso che non le trovi, qualità prezzo, hanno sempre hai sempre una grande macchina, nonostante sia di vecchia era, capito? Hai sempre una grande macchina. Vabbè, dei tempi erano. Comunque la linea, a me la radio mi è piaciuta moltissimo, la tua e quella che hai portato qua, se ti ricordi. Che cos'era quella della Icon, quella grande? Sì, quella era la Miraglia. Quella era quella con la versione da 200 watt WFO 757 DSP. Bella quella macchina, ma che fine ha fatto? Quella volata. La volata sulla lavorata qua. Adesso sto guardando qua, ho preso un'altra macchinettina piccolina e un po' di quattrini. E vabbè. Tanto quella era bella veramente qua. Quella ci va tutta, accordatore, tutto. Ti ricordi per quel discorso che si era fatto quel coso lì? Ci avevo fatto riparare? Mi pare che avessi un problema di ricezione con la radio quando l'hai portata qua. No, negativo. Stavo attaccando il coso e non sapevo dell'alimentazione 8 volts, era partito quel coso che c'è dietro il microfono all'interno per la modulazione. Mi ricordo che aveva un problema del genere, che stavamo provando a sentire appunto sotto le mie antenne se c'era qualche problema di radio, se era proprio un problema tuo di ricezione, sì, mi ricordo. Gran bella macchina, cazzo quanto era bella, enorme, è grandissima, è sugar. Grandissima veramente, è più grande del Mark 5 con la radio. Qui c'è un sistema di display, tutta quella console fatta in una certa maniera che veramente è piacevole anche starle vicino, capito? Perché a volte stai lì, accendi la radio, vedi che radio monotone così, invece quella aveva proprio un sistema molto bello da parlare, da fare, molto bella quella radio veramente. Però poi vedi, capita che o ti stufi o un problema che magari non riesci a risolvere, la mandi su, ti capita l'occasione e cambi, come a volte faccio io, no? Non è possibile, ti giuro, a volte rimango così, non è possibile che in un anno, ho venduto e ripreso 6.440, 6. Per questo cambio, faccio andare un po' questa qui, questa qua, piccoletta, lo stesso. Sì, no, non è possibile, 300 euro ci avevo speso per quella fesseria lì, che aveva cambiato proprio questa specie di scheda che c'è dentro perché non la faceva spingere, non la faceva, capito? Mi ricordo che aveva qualche, infatti noi pensavamo fosse l'attenuatore inserito di 20 dB meno, invece era proprio la scheda del MOSFET che era partita. Quando hai quelle macchine lì, Gianluca, ne fai un uso come ne stavi facendo tu, è un grande spreco, è un grandissimo spreco, ma non perché non si possa usare, ma è uno spreco non nel vero senso della parola, cioè c'è una macchina eccezionale, una macchina che costa 4.000 euro e vai a usarla in 27 o stai lì solo ad ascoltare, è uno spreco. Conviene come se vuoi più avere sì una macchinetta piccolina, quindi un 440, un 757, dove ti puoi sbizzarrire, ma cosa meno a tutti, forse uno e l'altro, ma quei livelli è un peccato, capito? Se non ci puoi parlare è un peccato, perché non fa. La macchina stessa mi risente, perché la tieni si è accesa, è vero che la tieni accesa, però non vai in trasmissione, non fai commutare le bande, non fai lavorare l'accordatore, non fai lavorare i filtri, quindi alla fine la macchina ne risente. E quindi è chiaro che quel problema può essere anche capitato dal fatto che l'uso era proprio molto molto scarso di quella macchina lì, perché è eccezionale veramente, quella è una bestiolina, una delle migliori macchine di quell'era che ha fatto la Icom, veramente molto bella, molto molto bella. Mambolino, e allora lavorare domani? Gaffa, domani si va a lavorare, e fatemi tra poco per il ritiro. Ecco quanto lì, avrei voluto far cambio a Tundec, Budda, ancora minchia, domani abbiamo 11, riusciuti, altri 11 giorni ne ho, che palle che è, e vabbè, comunque piano piano già non c'è problema. Adesso la faccia è quella molto più leggera, quindi muovo bene il braccio e diciamo che ne ho uno e mezzo, due ancora no, però uno e mezzo sì. E domani mattina usciamo, ci facciamo un giretto nel lunedì, c'è piazza dei Toscini, girettino, compriamo un po' di frutta, un po' di verdura e poi ci rientriamo a casa, c'è la bella cura. Quando voi c'è già l'uno, io invece sto cercando, che poi ce l'avevo tra l'altro anche lì, cazzate su cazzate, ma purtroppo ho dovuto passare per prendere 9,50. Sto ricercando, però deve essere una cosa bella e funzionale, perché se sbagli lì si fa tutto. Nuovamente il 706 MK2G. Se lo trovo me lo riprendo, perché l'attacco solo esclusivamente l'antenna di 50 mega a 100 watt e lo lascio stare così. E c'ho l'antenna anche di 6 metri sul tetto, e quindi per non fare, cioè voglio separarla dalle radio. Quindi avendo un MK2G lo metto a 50 mega, le attacco la sua antenna e così c'hai tutto, ogni banda c'è la sua radio, perché 50 mega a funzione del quadribanda è un casino, non lo doppi mai, perché lo stai in 40 metri, stai in 20 metri, lo stai in 15, in 28, in 50 non ci va mai, invece se ce l'hai sempre accesi, 50 mega lavorano in una maniera molto molto differente dalle altre, quindi se tu stai attento quando si apre sporadico praticamente riesci a fare qualche collegamento, se invece non ce l'hai in monitor non riesci mai a capire, di tenere il computer acceso sul cluster come su io e vedere i passaggi, se passa qualche spot dei 50 mega subito vai e te lo pizzichi, è diverso, capito? Se lo trovo, quello è quanto un baracchino, un pochino più grande, però un quadribanda eccezionale che funziona da Dio, veramente molto molto bene, veramente molto molto bene. L'avevo passato proprio nel 950, l'effetti 950, e se lo trovo me lo riprendo, c'ha 100 watt da tutte le parti e funziona una gannonata. Allora, prima di tutto per rispondere sul discorso quello della differenza a prendere una di quelle macchine lì, che garanzia comunque sia dal venditore, c'era per 1400 euro il 775 DSP della Icom, il grande, quello che c'avevo io prima di tutto, e dopodiché con 12 mesi di garanzia. Dopodiché allora io stavo guardando qua, no? E mi ero venuta una delle prime che mi era entrata in mano, e sicuramente tu la conoscerai, l'avrai anche avuta, probabilmente sì, il 707 della Yaesu, decametrico per ora, sempre sintonia continua, però in maniera decametrica, perché aveva le bande a scatto, con il suo... come suo l'apparato, diciamo, era sotto, aveva questa specie di nelle memorie, in poche parole, come te lo posso dire, aveva il sistema delle memorie a parte, con i cartelli che si inserivano e mettevano le memorie. Io avevo un wifi separato, erano due pezzi. Allora, un wifi separato perché essendo un beccametrico, quindi a Bande Mark, non hai la possibilità di sintonizzare. Quindi aveva il preselettore a parte, dove nel preselettore, quindi a WFO separato, aveva anche le otto memorie, quello lì è, che era praticamente a cassa di plastica, era, non era ferro, era plastificata la cassa. Sì, forse mi ricordo che appunto era proprio plastificata, sì, si metteva o sotto o sopra la mettere, perché aveva di larghezza le sette dimensioni, solo che era sottile quanto, come ti posso dire, 3 centimetri, 4 centimetri era alto. Sì, aveva tutti i tastini, memorizzavi, quello lì era una bella ricezione. La struttura che aveva questa radio, che aveva questo sistema di segnale a LED, che a me non mi sono mai piaciuti. C'era il sistema LED, c'aveva come 450, era con la linea che faceva i due colori, da verde, dopo diventava, saliva fino a diventare arancione, no? Per i segnali più forti. No, ti stavo dicendo che questo 706 MK2G, o ZG, come cavolo è, cosa gli hai reso? No, è Icom, è Icom. Guarda, la misura di quello è WFO, aveva la... ti posso dire che sarà 30 centimetri per 10-15 centimetri di profondità, alto altri 10-15 centimetri, forse neanche. Canti un frequentimetro, amici, tu pidi un frequentimetro della ZG, un buon visino, già uguali. Sì, una cosa del genere, però grande quanto è tutta la radio, di larghezza e anche di profondità. Sì, l'ho avuto. L'ho avuto, 707, aveva la cassa plastificata, il colore era sul beige, il vecchio colore beige che faceva la IAIS, e il monoplone era di quello non liscio come quello che abbiamo noi nella radio Piemonte, però tipo quello appunto del Sommercamp, ecco, tipo questo che c'è io del 101, ed era Banderlark a scatti, faceva 10 metri, gli 80 metri, 40 metri, 20 metri, e c'era la versione anche 160, quindi 1.8, 3.5, 7.0, 14.0, mai a centrarlo, capito? Sì, mi ricordo, vabbè, sicuramente aveva anche qualche problemino di stato di disturbo della macchina, e sì, scivolava un poco quella lì, sono vecchie, ma metto tutto, che macchine vecchie. Allora, una sensazione di stesso, che ero su internet, e che non si, pagina non che si può visualizzare, non che mai. Ogni tanto come se si abbassa il segnale e esce da internet. Bello, ma quella rimpianto che, vabbè, inesperienza anche, vi dice che cosa manna, insomma, non è che ero tanto pratico, non so più cosa va in mano, ecco, il discorso era liscio. Certo, quando ho dato quel 902 DM, porca miseria. Hai visto la foto mio? Io l'ho avuto 902, ho avuto 901 e 902 DM, linea completa. Quella era anche una cosa spettacolare da vedere. Minchia, quanto era bello. Bello. Ma io se non ne ho avuto di quelle vecchie così. Vecchie ma consistenti, con preselettore a parte, con tutti gli stati finali a valvole, quindi Luria. Molto picco prima di poter andare in trasmissione, della cena, della mezz'ora, come la linea Drake, no? Ci avrebbe fatto scattare il valore, perché come sbagliavi il preselettore e andavi in trasmissione, non c'era il preaccordo, pum, ti dici, po', ma lì andata, io spegni la radio, togli, rimetti quella nuova, ne avevo di quelle fini, le 6-8 B6, non avevo mai una cattola in tre, alla Roditri, che avevo comprato la Fusaro, allora ancora, ma allora negli anni 80 era pieno di questo guardo, perché ne crepolavamo a uffa, allora costava una cazzata, quindi la prendevi, la mettevi, insomma era una cosa continua. E poi alla fine insomma ti stufi, io la linea dritta l'ho data quando ero via Pascoli, perché praticamente sulla base che hai visto tu, dove sono tutti gli HF, mi prendeva tutta la base di sopra, sono quattro pezzi, mi prendeva tutta la base di sopra, e quindi non avendo posto, ho detto ma affanculo, se no faccio i soldi, e avevo venduto quella lì e avevo preso, non mi ricordo che cosa, ma una di queste radio sicuramente, non mi ricordo se avevo preso un 440 o se avevo preso questo della Icon V1, non me ne ammento, comunque avevo comprato un'altra radio più piccola, perché lo spazio era poco. Adesso che c'è lo spazio me ne mancano un bel di radio, le vorrei riprendere piano piano, alla fine non teneva nulla, perché intanto le antenne sono quelle che sono, per poterle far funzionare tutte hai bisogno di antenne sul tetto, hai bisogno di spazio, hai bisogno di tante cose, se la bisogna in cura. Però vedi come insomma il cambio, ce l'ho 101, ho la linea completa, non l'ho esposta tutta perché preferisco tenere quelle che sto usando, va. Però potrei aggiungere gli altri due pezzi e già mi porta via un altro bel po' di spazio. Poi con adesso tutti gli amplificatori che ho, non aggiungo più di nulla, quello grande che è arrivato adesso, minchia, ho dovuto spostare anche il DAC, ho dovuto spostare tutti i baracchini per metterlo proprio vicino alla HF che mi serve, capite? Perché poi alla fine io già vai già lì. Compareggi, ma le radio sempre una dei drattimi. Sono quello sì. No, ma io dico una cosa, no, per esempio, no, le cose belle piace a tutti, dopo c'è anche la possibilità, se non c'è un malincuore, magari uno vorrebbe magari sempre acquistare qualche cosettina per mantenere anche già quella qua, perché ci ha affezionato, sa come funziona, quello che sia. Per esempio questo qua, questo che sarà adesso di questa marca qui è il secondo che mi è entrato in mano, il primo era il 450 e l'hanno guardato perché era lo stesso, non questo Santiago a Lobby che non mi piaceva, però era bellina come macchinetta, era molto bella, molto simile al 440, però il prototipo che avevo più giusto, per esempio il 440 rispetto al 450. Giusto per vedere un poco com'è la timbrica di questa radio, come mi faceva la voce, ma perché sennò io ho sempre mi scotto in mente, sempre con gli ausi è fatto, quello lì, quello che sei tu, vecchissimo, guardavo ancora quelle riviste, che non c'era, dopo roba ho buttato le riviste in CQ, elettronica, e anche in elettronica, il film veniva 2.400 mila lire la radio, se me la attribuita per me una radio del genere, 1.85, 1.86, 1.87, cazzo, ma è allucinante, io guarda questa qui, sicuramente ce l'ho, ma io penso più di 15 anni, perché l'ho dato con Piero Alga a prenderla, a Sassari, mi rammento da questo tipo che abitava vicino alle vele, il ristorante che c'è le vele lì dove c'è entrando la motorizzazione, e ho preso la radio, gli FT, quell'alimentatore che ti ho detto, quel microfono lì, mi sembra che lo aveva 1.200, avevo contrattato 1.150, 1.100, 1.100.000 lire, scusami, tutti questi tre pezzi, all'epoca mi, cioè, io avevo fatto sacrificio, data di stipendio, avevo fatto sacrificio, sto guardando quella radio qua, il 706, molto bello, compatto, un veicolare che sarebbe bene anche in macchina, la possibilità di avere avere tutto come in maniera compatta. Simile a questo c'era il 7 della Yaesu, quello più piccolo ancora, che sempre fa, tu sicuramente lo conosci, adesso non costa neanche tanto nuovo, sulle 770 viene. E della Yaesu però questo qui già c'è i cacchetti, si può mettere anche sul tavolo, anche sicuramente avrà anche la staffa per metterlo in auto. Quello invece mi sembra che è più destinato proprio per veicolare, questo della Yaesu che sto dicendo io. Però questo è veramente molto bello, c'è un bel display, quello invece sarà molto più piccolo, quello della Yaesu. No, quello è 857 500, io l'hai comprata da Nino Torrebravo, ok, che abitava lì vicino alla motorizzazione, e tu hai la linea mia, hai la mia linea, quindi hai comprato l'MD1B8, il 757 GX2 con alimentatore Colomina, quella era la mia linea, perché io l'ho data 1000 euro, cioè 1 milione, a Nino Torrebravo, okay, che abitava vicino alla motorizzazione, il panettiere che poi è andato a fare il pizzaiolo lì vicino a casa tua, confermami se è vero, tu hai il mio 757, è la mia linea. Il nominativo non me lo ricordo qua, passato troppo tempo, lui, ma già si trova più o meno, però già se lo ricorda perché siamo andati insieme. Sì, lì siamo andati a casa sua, praticamente quando tu, no, che scendi dove c'è casa, hanno fatto quella specie di bricco, quel bricco sarda, come stavano quei comuni, però per esempio no, e dopo ci sono anche quelle installazioni degli istituti di vigilanza, se tu quanto continuo più dritto, però giri per quelli che lo chiamano le vele, quelle, quel ristorante, al bar, cosa abbia vuole. Ecco, siamo andati lì, abbiamo girato lì, abbiamo fatto, mi sembra, due svincoli, su quella zona lì e due da lui. Sì, tu c'è la mia radio, caro. Guarda che poi è andato a fare il pizzaiolo, lui è andato a fare il pizzaiolo alla pizzeria Leandro, di zia Casaluia, capito? Quindi è Nino Torrebravo, tu hai la mia linea, io quella l'ho comprata nuova, da Mario Notari, e la pagai allora 2 milioni e 700 mila lire, allora. Quindi vedi tu, mediante di nasce muova vendendi. Dopo di quella, quando io ho venduto 1 milione, quella lì, a Nino, no? E lui si è venduto 1.100.000, giustamente. Ho aggiunto ancora altri soldi e ho comprato il primo 430, quindi sono passato alla Kenwood. E dalla Kenwood poi non mi sono più spostato. Non mi sono più spostato, perché 430 ce l'aveva Marco 131, mi piaceva moltissimo per modulazione, andava molto meglio di quello come timbrica di modulazione, quindi a me piaceva moltissimo. E allora da Mario ho comprato il Kenwood, e da lì poi non mi sono più spostato. Praticamente ho continuato sempre con la Kenwood, anche a livello HF, decametrico, anche non essendo la rimatore, non ho fatto mai niente, però ti dico che mi sono trovato molto bene. Comunque la linea lì a me piaceva moltissimo, non mi piaceva la modulazione, non riuscivo a dare il massimo di modulazione, quindi ho detto, boh, ma ormai ho conosciuto Marco col DS430, mi è piaciuta la modulazione, ho detto, ma devo comprare quella radio. E anche quella costava più di 2 milioni allora, più di 2 milioni, sempre nell'80, 80, 86, 85, quegli anni lì. Nell'80, l'86, insomma, il cambio era quello. Però tu, secondo me, stai usando la radio, la mia radio, quella che ho dato a Nino. Se chiedi a Piero ti confermerà, perché Nino poi è andato a fare il pizzaiolo vicino a casa tua, tra pizzeria Leandro. Aspetta un secondo. Tutti i signori Cabo Bianco di Badia Burundax, si sta preso. Buonanotte, aspetta, sentiamo. Ciao Anto, buonanotte, vai, ti saluto anche Gianluca che non ti sente. Ciao, buonanotte Anto. Sì, tu sei Magnetti, ci vedo vedendo di Magna Mocca. Non so se è Magna Mocca, è un tipo grosso era. Tanto un anno, Cabo Bianco, non distinta, non è capace di una brava persona, che è quello che ricordo io, volevo. Aveva preso la pittura lì, qui l'aveva preso, però lui era tassista, capito? Guidava il taxi suo però, di proprietà sua. Ma non conosce la Magna Mocca? Ehi, tanto se lo conosce la Magna Mocca, a lui lo conosce. Sì, è quello lì, è magia. Quello è il fratello di Torre Sattolo, capito? L'interessato, quello che poi ha preso l'iPod 77, capito? E il fratello invece ha preso la pizzeria Leandro, eppure la benedizione a Nino, vai tranquillo, se tu chiedi a Piero, guarda, non ci sono cambiamenti, lo so perché è così, l'unica radio 757 GX2 linea completa che è stata venduta a Sassari, secondo me è quella che io ho dato a Nino, perché lui praticamente abitava in via Torretonda, poi si è trasferito lì in quella zona che si è andato giù, capito? E da lì poi viaggiava a Porto Torres perché faceva il pizzaiolo, prima faceva il panettiere, lì via Torretonda, e poi si è preso la pizzeria in gestione di Ghito Masia, di Ghito Ciccione, il tassista, che è quello che mi ha sparato a Ossimi. Ecco, bravo, sì, mi aveva fatto le parole alla bocca. Non mi ricordavo che era successa una cosa un pochettino delicata. Bravo, esatto, proprio visto. Allora vedi bene, diciamo intorno i conti, perché so tutta la storia, a parte il fatto che con Torre ci conoscevamo, quindi so che quello era il fratello, aveva quando lui ha dato la pizzeria dove andò a Nino, aveva preso l'iPort assieme al fratello, c'era un giro un po' gonfietto, e farendo i lavori la vendirabbo. Capito, l'hanno tirato, l'hanno preso al petto, infatti se tu lo conosci, lo vedi ancora, lui una mano, la mano sinistra praticamente non la muove molto, perché aveva preso l'arteria proprio sopra, un po' più su del petto, quindi era corsa cribà, l'hanno salvato per miracolo, capito? Già quello lì, sì, vai tranquillo che tu quel 757, quella linea lì, perché tu mi hai detto che avevi l'M1 B8 e l'hai dato, io invece lì non gliel'avevo dato, capito? Se lui ti ha dato anche l'M1 B8, quella lì era la linea mia, sono sicuro, perché ce n'erano poche in circolazione, e comunque aveva fatto un grande affare lui, perché era nuovissimo, io mi pare ce l'avevo 5-6 mesi, e hai fatto l'affare tu perché lui non l'ha mai usata, l'ha usata pochissimo e poi l'ha messa da parte, quindi era nuova quando te l'ha data. Sì, infatti mi ha detto che era nuova, che l'aveva presa da poco. No, anche il microfono mi ha dato, tutto complesso. Figurati tu, quindi si è andato bene, perché io il microfono l'ho comprato a parte, lo pagai in lire, guarda, non ti voglio dire balle, ma mi pare che costasse nei 250 euro in su con l'M1 B8, l'M1 C8 costava ancora di più, che sono simili all'MC60, però hanno il piantone un pochino più lungo e il microfono leggermente più lungo come sede di dove c'è la capsula. Sono dei microfoni anche quelli, vanno bene ancora, qualcuno c'è in circolazione che ancora cerca di rimpiazzarlo, però oramai con l'uscita dell'MD100, l'MD200, quelli sono passati, però è come gli MC80-85, una volta che poi è uscito il 60, tutti hanno preferito il 60 per l'estetica, per la timbrica che ha, però l'80-85 sono ancora cercati, quindi che puoi applicare a qualsiasi macchina che vuoi, vanno sempre bene. Erano quelli i giochi di Caruso, Gianlu, erano quelli lì, si cambiava, si faceva, si girava la radio, va, non bene, non te la va. Tornando a Nikon 706 MK2G rispetto all'857, io preferisco il 706, li ho avuti tutti e due, ma per una semplice cosa, che il 706 ha una timbrica molto molto diversa dall'857, senza niente togliere all'857, perché è una grande macchina anche quella, anche se è piccola, però sono degli apparati veicolari quadribanda che vanno molto molto bene, prendono poco spazio, sono tutte e due a frontinetta liberi. Io ce l'avevo nell'Audi il 706, avevo l'unità nel cofano, addirittura avevo comprato il carro lungo da 5 metri e avevo messo arancione, io l'ho fatto arancione e va molto bene. A quanto l'hai trovato il 706? No, il 706 no, il 787 della Yaesu, quello lì, nuovo sulle 1.800 euro scarsi, 790 mi sembra che era la spedizione completa. Lo stavo guardando, però volevo sapere appunto come si comportava in AM in 27. 857? Ah, va bene, sì, va bene. Però il 726 come dimerica superiore, a me piaceva molto, anche perché c'è un menù molto più ben, oddio, più ben rifinito, non è esatto, però è più semplice da usare, perché tiene il touch, lo comandi direttamente, diretto dal frontalino, mentre sull'857 devi andare sul menu, quindi applicarlo, dare le percentuali eccetera, quello lo metti diretto, lo metti 440 come 140, no? C'è il pulsantino pigi e lui nel display ti segna approach, capito? E poi c'è un menu solo che è unico, molto facile da usare, 706, dove tu vai e c'hai le posizioni sia del car, quindi della potenza, sia del Mickey Game, tutto in digitale, te li porti il car tutto a 100 e il Mickey Game va da 0 a 10 ed è favoloso, un grande veicolare, a me piace anche esteticamente, infatti se lo trovo, ma io in macchina lo devo mettere, no, non è bongo, però siccome è piccolo, non è grande, ci sta, c'è uno spaziettino. Ti ripeto, lo metto l'antenna a 10 metri, lo lascio proprio in frequenza 50 mega e lo usi così, capito? Da mettere la tavola o installare la vettura? Vabbè, lo puoi fare uno e l'altro perché sta anche il fronte inestraibile, la console te la metti sotto il sedile, o nel cofano, c'è il cavetto su una dotazione, quello da 2 metri o da 5 metri, e quindi puoi mettere il frontalino davanti e usarlo come baracchino o come momenti di bianchi, però lasciandolo attaccato il frontalino c'ha il cavallettino uguale come tutti gli Icon, come tutti gli HF, però puoi mettere anche a casa senza attaccare il frontalino, quindi come un semplice veicolare con l'SM20, perché io ho anche l'SM20. A tutti dico che aveva una modulazione favolosa anche in AM. Bello, adesso sto guardando se, perché su eBay, su quella cosa lì non c'è, non lo so subito, lo provo a digitare, veloce mi dà una ricetta completa su tutta Italia, e vediamo un poco, allora, e vediamo un poco se c'è qua, se no si bisogna vedere cosa costerebbe nuovo, perché no, mi sembra che lo visto da poco con il frontalino verde. Nuovo non lo trovi più, Gianlu, perché non lo fanno più, già da qualche anno non fanno più il 706 MK2G, io il primo che ne avevamo preso parecchi, l'ho preso io, Walter, Marco, Lino, quello che l'aveva preso, e poi anche Carlo, quello che era Monti, Antonio, e sì, ho 7 radiomature l'avevamo comprato, la Fiera di Milano, a Novegro, e lo pagammo allora intorno alle 600 euro, una cosa del genere, 600-700 euro, ma era, forse aveva qualche anno, non era appena uscito, capito? Quello è abbastanza abbordabile, dai, non è, diciamo che costava di più, ce n'è uno simile, però che so che c'è tutto il display a colori, sempre fatto in quella maniera lì, anche come estetica, mi sembra che sia sempre della Icon. 857 sarà quello lì, il modello nuovo. Ma quello bomba le 1000, arriva a 1000, se non c'è, arriva poco ci manca, Sì, mi pare che sia intorno a 900 euro, 870, 970, una cosa del genere. Quello c'era Walter, Marco, mi pare ce l'abbia anche Massimiliano, anche quello è un bel veicolare. Un bel veicolare, molto bello, anche perché c'è un display, hai visto com'è, molto grande. Guarda che anche l'857 è bello, il 706. L'857 c'ha la doppia funzione però, quindi è un quadribanda dual band, nel senso che ti dà la doppia frequenza sul display. Il 706 o trasmette in V, o trasmette in U, o trasmette in HF, o trasmette in 6 metri. Quindi unica è un bibanda quadribanda, un quadribanda bibanda, nel senso che ti dà una banda solo, capito? Invece quell'altro è un dual band, l'857, quindi doppio display. Però anche il 706, con di colore che lasci il frontalino in verde, la frequenza è bella grande, perché come vedi, se ce l'hai davanti, il display è abbastanza grande, quindi è molto leggibile, i numeri sono molto grandi. Cavolo, cioè il 60% della mascherina è il display. È bello sì, è molto visibile, molto grande. Però diciamo, il discorso che puoi mettere appunto come il frontalino come lo stereo, lui davanti che avrà la portata di mano, col microfono che avrà anche spazi sul microfono, per lui potrà essere entrare nel menu e questa cosa qua. E la cosa la mettere dietro, la sotto su lì, e poi guarda, è una agevolazione unica. Adesso c'è un microfono come il 2725, quello che ho io della ICO, con la tastiera di TMF, quindi programmi tutto dal microfono, si illumina completamente il microfono perché c'è la tastiera di TMF, quindi lavori secondo quello che stai facendo, o sei in macchina, cambi direttamente una volta che l'avrai memorizzato, non hai bisogno di toccare il frontalino, ma bensì lavori tutto dal microfono. Quindi ha delle cose veramente, veramente molto, molto belle, molto belle, te l'ho detto, è un bel veicolare, infatti se lo trovo e ho quei soldi, sono giusti, me lo prendo, ma credo che sia intorno alle 450 euro adesso, 400-500 euro usato, buono, però deve essere nuovo. Perché tra l'altro la ICOM, non facendolo più, non ha più i pezzi di ricambio di quella radio, è tanto vero che molta gente che ha bruciato i finali ce l'ha da parte perché non si trovano i finali, quindi si è costretto a ordinarli fuori all'estero, ti costano un pacco di soldi, ma non tanto il finale, tutto l'organamento, tutto il procedimento che c'è, e quindi è una rottura di palle, hai capito? Certo, ci sono tutti i problemi, guarda. Quando magari la radio molto discretamente e dopo mi ricorre a questa assurdità, cazzo, devo trovare pezzi di ricambio o comunque sia anche una ditta che mi parla loro, che faccia degli accessori, in questo caso dei componenti, che sono. Che siano equivalenti a quelli che ci sono già, ma vanno rammara. La mossa di inizio tra un fulmine no, qua. Ma danno fa. Cazzo il pezzo, l'avevo mandato a Negrino, ad Andrea. Sono mesi, secondo me erano tenute, cazzo, da tutti arrivavano questi schede, questi microprocessori, che cavolo era. Della Sony o della. Da sotto, ma fin là di giù. Io lo sento. Sì, perché siamo un'isola di merda, capito? Non abbiamo mai avuto capacità di portare, esportare materiale di questo genere. È impossibile, anche a me mi è capitato di ricevere dei ricambi da punta di manicomio. Però sono stato costretto perché non riuscivo a trovarlo. Capito? Quindi cosa fai? Lasci una radio ma usci perché ti mancano due stronzate come finali, quelli sono dei finali normalissimi che però la ICOM non ha più, e quindi per trovarli devi girare un casino. È successo a Vanino, lui ne ha due, addirittura di 706 MK2G, e da due ne ha fatto uno, proprio perché non riusciva a trovare i pezzi, capito? che c'è oggi, prima passiamo dietro paragoni di macchine, non compare di macchine tipo Renault, Peugeot, sai, macchine straniere, essere nel mercato italiano, no, Fiat, quattro bici da ciappa, le mettuzzo, allora invece, boh, sta ciappa le due bici di Daniele, che si vuole dire una cosa di nuova Trento. E infatti, alla fin fine poi i rematori hanno smesso di comprare radio a quei livelli, perché non trovando i pezzi vai in crisi totale, cioè non puoi tenere una radio ferma, perché uno vabbè che ne ha 5, 6, 10 di radio, rimane sino a fumetto, a parte ne usa un'altra, ma chi ne ha una o due già ti viene a mancare un 706 che è un quadribanda dove puoi usare tranquillamente i 6 metri. Cosa fai? Non hai 6 metri, cazzo, si apre sporadico, hai necessità di incrementare il log, rimani così a balla in mano o giù a lui, e quindi bisogna fare sempre bene con gli occhi aperti, perché è una radio molto molto delicata, molto molto delicata, ha la rivelazione molto molto delicata. Mi pare che non vada più di 13,5 volts, se tocca i 14 già sei in difficoltà perché metti in crisi finale, ha un ingresso molto ben specifico ma è anche scritto, e il procedimento di quella radio deve stare molto molto attento, quindi è molto delicata, perciò insomma io te lo dico perché l'ho avuta e ti posso dire che è una bella macchinetta, piccolina, semplice, però bella compatta, già l'hai vista, è un quadribanda, ha tutto e di più, ha anche per l'HF c'è anche il amplificatore dell'antenna incorporato di più 20, meno 20, ha l'accordatore esterno che è simile alla radio, piccolino così da applicare, che non costa neanche molto, e ti dico se riesci ad avere la linea completa di quella radiolina lì, hai delle ottime soddisfazioni, perché ha un grande ricevitore, nonostante sia piccola la radio, attento, ha un grande ricevitore, ha dei filtri allucinanti che allargano e stringono la banda passante proprio da non fare sentire manco un fruscio. Sembra in sala digitale, comunque forse c'è anche il sistema DSP. Sì, c'è il DSP. Ma poi se tu la vedi proprio con DSP inserito, stringe di 1008, di più 1008, stringe di meno 1008 e allarga di più 1008, quindi ha un'apertura, una chiusura in banda che è fenomenale, soprattutto in USB e nell'SB è fenomenale, va molto bene, la banda un po' così rimane sempre quella della M, dell'FM. Ha un ottimo trasmettitore anche in CW doppio, a parte inserito, è una chiamata, infatti molta gente la prende per fare CW doppio, perché ha proprio questa spinta di potenza che all'impulso del cittadino dà proprio il massimo segnale in trasmissione. Guarda, sicuramente le... C'era su lui, guarda, l'ho vista. Anche da poco l'ho vista. Ma sicuramente non è tolo, solo che c'è il rischio lì che se compri una privata, appunto, se ricorre in queste cose qui, magari mettono le foto per l'estetica, che magari non è proprio quello che ti fanno vedere, quando ti arriva la cosa cazzo, magari se non sofferti finale non è pieno delle sue prestazioni. E dopo con questa cosa che scrivono, privo di garanzia, visto piaciuto, formula, non sono responsabile dei sbagliottamenti che danno i corrieri, insomma, il dottorino si rende la bagna male, allora uno comincia a citare tutte le altre cose, vuol dire che il curato è al 99%. Si conferma Gianlu, è proprio così, perché poi alla fine c'è quello che sì, ti dà un bel ricetrasmettitore e dice guarda c'è questo difetto, lo vuoi? Ok, poi sta a te decidere se prenderlo o meno, ma c'è quello, soprattutto con quel tipo di radio, per perché la ICOM è molto, ma molto più delicata la Kenwood, anche sui ricetrasmettitori di inferiorità anche a livello di costo. Però se te lo dà a posto va bene, ma se te lo dà già col difetto che si è presentata in quella radio, dopo che naturalmente, perché è uscito l'MK 706 normale e poi è uscito 706 MK2G. Qual è la differenza? Che l'ICOM 706 ha l'HF, i 50 mega e le VHF, l'MK2G è un quadribanda, quindi c'è anche le UHF, capito? Proprio in quello scambio, in quel sistema di miglioramento della radio, sembra che ci sia stato un problema sullo stadio finale, proprio nella commutazione tra le V e le U. Le prime radio che sono uscite avevano questo difetto, le hanno ritirate, le hanno praticamente aggiornate e rimesse in commercio. Chi non è stato in grado di poter fare questa operazione, cosa ha fatto? Se l'ha venduta, vendendola a te, tra l'altro una radio con un problema che tu non riuscirai mai a risolvere, perché è un problema di software, quindi va aggiornata direttamente dalla ICOM. Quindi portandoti avanti questo problema con l'andare del tempo, si verifica un problema allo stadio finale, dove si brucia, la ICOM non te lo dà lo stadio finale perché tu non sei stato in grado di dargliela e farti fare l'aggiornamento software, e quindi la radio te la metti nel culo, capito? Per farti capire, quindi se tu la compri a seconda mano che il problema è stato risolto, va bene, se chi te la dà con quel problema precedente, tu la radio con l'andare del tempo ce la butti via. Allora è inutile che uno si rischia, perché se questi qua all'epoca non hanno fatto questa non hanno preso precauzioni per far fare questa modifica o comunque sia questo aggiornamento, allora vuol dire che la maggior parte o comunque sia la gente se ne disfa proprio per questo problema. Lo può disfare anche come ho fatto io, per dire, io l'ho borsata, ma la mia era perfetta. È stata rimandata la ICOM quando io l'ho comprata, perché sai, tra le mature si parlava, si diceva, io stavo molto all'ascolto eccetera, alla fine mi hanno informato che quella serie, mi sono comprato la serie perché c'è una serie dietro la targhetta, mi sono comprato quella serie e corrispondeva, ho detto ma vuoi vedere che cazzo anche la mia è difettosa. Ho chiamato la ICOM, io l'avevo presa da IRAE. E gli ho detto, la radio ho preso io, Maglio, sì, va aggiornata, Claudio, ma la devi rimandare perché devo mandarla alla ICOM, lui era concessionario, quindi ho detto, va bene, l'ho messa anche la scatola, l'ho rimandata, me l'ha rimandata con tanto di talloncino aggiornato di quello che ha fatto la ICOM, del software aggiornato, eccetera, la scheda. E automaticamente mi sono trovato con la radio a posto. Non mi ha mai dato un problema, mai. Quando ho preso il 950, che era oltre 1300 euro, e io la cifra era quella che potevo spendere, ma io di gira sacrifico il 706, intanto i 6 metri, ce li ho sul 950, quindi a cosa mi serve avere le VHF, UHF ce li ho separati, HF non me ne mancano. E qui ho detto no, fanculo, lo sacrifico, e quindi mi è servito come aggiunta per comprare la radio nuova, altrimenti non avrei mai versata quella, mai. Beh, sono scelte comunque sia non costrizioni, però un giro di conti del fatto è così che è migliorato in qualità anche in prestazioni, comunque sia quella è lo stesso, anche una miraglia è 950, la radio in digitale molto bella, l'unica cosa è sempre, ripeto, guarda, sempre questo discorso, io non so perché fanno queste cazzo di cose a LED, questi santiago a LED, magari il significato va magari il significato va proprio di fare sì, tutto precisi a rendere, tutti precisi. Cioè tu a occhio non potevi vedere una cosa del genere. La camera era proprio una cosa lampante. Uno che ti attendi a 3 led, l'altro che ti attendi a 4, un 5 allora sì. Ma segnali equivalenti molto simili. Cioè schiacciava anche senza parlare, cioè quando chi schiaccia so chi è, capito? Quindi scrivo su Google, con velocità di dirigere a volte, quindi non la pietra fa un culo continua. Gianlu, però se è successo una macchina del genere, che già tutto il sistema digitale non è come mettere uno smitter analogico, è un problema ghiaccio. Capito? Il problema è quello, perché quando sono state invertite le cose, quindi passate tutte le radio dall'analogico al digitale, è chiaro che l'adeguamento era anche quello sullo smitter, quindi il segnale del ricetrasmettitore doveva essere in digitale, quindi pur non essendo un vero e proprio segnale digitale, perché sempre di LED si parla, è chiaro che il sistema deve essere quello, non ti possono dare un 850 che è semi digitale, perché l'850 non è digitale, ma è un semi digitale con il segnalatore, l'indicatore analogico, deve essere per forza semi digitale anche quello, mentre il 950 che è una macchina digitale ha il segnalatore diverso, quindi è proprio un segnalatore digitale. Capito? Non è a LED, ma è digitale proprio, c'è la scheda dello smitter che è digitale. Mentre se tu stai attento all'850 non è così, sembra così, ma non è così. Non è una scheda digitale, quindi sono proprio dei LED che segnano il funzionamento del ricevitore proprio sulla parte ricevente. È tutto un sistema che è cambiato con il procedimento delle macchine stesse, quindi la nuova generazione, nuove cose, perché se tu vai a vedere il 940, che per me rimane sempre il mostro della Kenwood, è sempre il numero uno, nonostante sia una macchina di 20 anni fa, che è ancora attualmente sempre in corsa come usato a non meno di 900 euro, 850-900 euro, ma è un grande ricetrasmettitore, grande in tutto e per tutto, capito? Quella è una vera macchina da combattimento, quella è una vera macchina da combattimento, perché quella è una accoppiata col TL922, io l'ho avuto, il TL922, il 3 kW della Kenwood, che lo pagai sempre a Mario Nottari, 4 milioni, allora. Quindi ti posso dire che è una grande macchina a copiamento, con quello non ve ne fanno più, comuni di tutti gli altri già due, ma ancora attualmente oggi chi ha il 940 in accoppiata con il 922 non ce n'è, ma anche in accoppiata con un Emitron, un qualsiasi amplificatore da kilowatt sotto, non è radio, la Kenwood è Kenwood, cioè c'è una modulazione stupenda, anche perché il 940 è nato diverso da tutte le altre macchine che facevano in quei tempi, con il processore e il compressore, tutti e due con doppio controllo di microprocessori separati, quindi tu ottieni una modulazione in banda laterale che è una favola, uno spettacolo. Gelù, comprate della 500. Chi è Sandro? Non ho capito, scusa, non ho capito il nome nativo. Gianluca qua da Porto Torres, sì, compagnia di Claudio Spalviero da Sassari. Ah, Franco lì, scusa, mamma mia. Guarda, adesso sto parlando con questa radio che ce la sto parlando rivolto verso l'alto, no? Perché ce l'ho sopra la mensola, questo qui, questa radio. Fra, mi ha decudetto. Mi sa che è andata la decudetta, andate a Bulue. Tornando, ti faccio, mando Claudio per i saluti, dai, così continuiamo questo discorso, perché è bello sapere le cose. Ciao Fra, non ti avevo riconosciuto io, ma ti sei scidato o sei nelle coccate? Va bene, allora ti do la buonanotte, non ci sono problemi. No, Gianluca, stiamo ricordando un po' il passato della radio, che per me non ci sono discorsi più belli che un radioamatore UGB possa fare con un altro corrispondente, non si parla in radio. Io ho maturato una grandissima esperienza nel settore da quando ho iniziato, e quindi mi piace parlare di queste cose. Mi piace. Sono cose veramente interessanti. Ok, quindi se non avete ricatti, davvero rimani. Dove cazzo pubblica su questo B? Questo scemo che ti sta superando tutti. Non ho capito cosa è detto qui. Ah, è in picca di due tutta la Spagna. A parte bolniaco questo, mi sembra. Certo, non la volte da zingaro. Non è spagnolo. Perché provoca ce n'è un altro spagnolo, ma questo mi sembra bosniaco. O il rumeno o il bosniaco. Allora, ti chiamo. Spiega che cosa è, cioè, Jugoslavia, vado a rivenire in voce. Sì, c'è anche quella lì, Ocla, questa 940 che stai dicendo tu. Infatti tutti precisavano, in verità, chi è che legge il coso sa di che macchina sta parlando, non c'è bisogno di presentazioni. Sì, quella cifra lì erano, 900 era abbondante. Ce n'era una sulle 900, dopo bella col display verde, c'è l'altro display, non mi ricordo che cosa usciva su quell'altro display. L'altro display ti segnava la frequenza che tu avevi in uso, lì potevi mettere l'orologio o la frequenza che avevi in uso, e praticamente ti dava il controllo sulla videata, praticamente, di come stringi o allarghi la banda col selettore. L'ho avuto anch'io, l'ho recolato, l'ho avuto 2 anni fa esattamente, l'ho riversato 2 anni fa, sempre per comprare altre cose più recenti, e avevo la linea completa addirittura, perché la 40 aveva 220, quindi non ha problemi di alimentazione. E c'è un accordatore che non te ne dico, cioè di una velocità che non riesce a contare neanche a 2, fai 1-2 e tu hai già accordato. E poi avevo la T930, che praticamente era il suo rosmetro, wattimetro, accordatore manuale e commutatore d'antenna, e la colonna esterna SP930 e basta, la linea completa sempre la MC60. Anche qua ce l'ho su una foto che ho qua. Sì, ce l'ho tutte le radio di grossa attacca, ce le ho tutte. E anche quella, vedi, anche quella è rimasta il simbolo di quello che è stata la TV inizialmente, perché avendo fatto una radio di quella stazza lì, con quelle dimensioni, con quelle capacità, con quella, proprio una radio eccezionale, chi se la tiene, anche la Kenwood, però a sua volta su 940 ha avuto un problema, che era quello della commutazione automatica di banda. È stato fatto un aggiornamento anche lì, e chi l'ha aggiornata, chi ce l'ha ancora, eccetera, ha una bellissima radio eccezionale. Quella, con l'andare del tempo, se tu non hai fatto quell'aggiornamento, ti fa la stessa cosa che fa 706, capito? Perché, credo, è successo a me a bambino per 706, il primo, il 706, poi abbiamo preso il 706 MK2G e quindi non è successo più niente, perché era già stato aggiornato. Con la 40 ti succedeva che ti si bruciava il MOSFET del ricevitore, il MOSFET proprio della parte ricevente, quindi se un segnale ce l'avevi a 9.30 se ne andava a 20 dB in meno, 9.10. Qualcuno se ne accorge o non se ne accorge, cioè, quindi c'è poca propagazione, 9.10, vabbè, ricevi e trasmetti tranquillamente. Però il segnale non era effettivamente quello, perché andava a far partire il MOSFET del ricevitore, quindi proprio della parte ricevente del amplificatore d'antenna di meno o di più 20 dB, e quindi ti abbassava il segnale in automatico, capito? Un sacco di cose succedevano prima, perché non c'erano gli aggiornamenti che ci sono. costretto adesso a fare tutti sempre questi, costare di nuovo a fare questi aggiornamenti, a entrare col computer e mettere questo cavolo di cose, interfaccia. No, io guarda, boh, la radio perché deve avere queste, deve essere, come si dice, quasi schiava di questa tecnologia a un certo punto, boh. Non lo so, come questi cavoli telefonini, mi aggiungo, non fate di tutto tranne che telefonare, fotografie, e video, e filmini, e entri su internet e fai cosa tutto che non fa da un telefonino. E nel senso stanno facendo così con le radio, mi. Oh, via, avanti Franco lì. Per questa attività, quindi come tutto si è ottato sul fatto, sul numero, in tutto quello non ho preso più, però mi ha dato una bella soddisfazione. Sarebbe 140 più la 50 mega. Sì, anche per lui l'ho avuto, l'ho dato a Vannino, quindi. Poi Giovanni non so, no, Franco è mio. Mi ho fatto un cambio con un'altra radio che io non avevo. C'avevo doppia, quindi ho pensato per dare un'altra. Ma molto bene anche quella. Sì, ma è Gianlu, è diverso, capito? Il sistema è diverso perché oggi per forza devi aggiornare. È successo a me con l'850. Quando è arrivato l'850 che lo mando laterale, no, non si discute. Infatti tanto vero che l'ho passato adesso in mandare l'850 è fisso in mando laterale, l'ho cambiato l'antenna, è fisso in mando laterale perché è un controsenso usare quando ho preso il 440, l'850 l'ho passato in HF. Ed è in 10 metri e in 20 metri, l'altra invece fa 40 e 80. Ma per dirti, anche lì mi è capitata la stessa cosa, cioè una casa costruttrice come la Kenwood, che poi adesso la Kenwood non esiste più perché ha comprato tutto la IAESU, tanto è vero che sta rifacendo la IAESU la nuova radio con le vecchie sigle, perché l'FT950 non è altro che il vecchio Kenwood DS950, hai capito? Il 450, IAESU FT450, non è altro che il TS450 che faceva la Kenwood. Tutto così, sta riprendendo piano piano a fare le radio nuove con le stesse sigle però marcate IAESU. Però ti dicevo, con l'OT50 l'aggiornamento del software l'abbiamo fatto con Fabrizio. Ce l'ha detto Sandro Bierghero, abbiamo dovuto fare l'aggiornamento software, proprio il vero aggiornamento nella parte M, perché in M non dava più di 25 watt solo perché c'era il sistema proprio dell'apertura della banda passante completamente chiusa, quindi non è mai stato aggiornato, capito? L'aggiornamento l'ha scoperto Fabrizio al computer e l'abbiamo fatto io e lui, tutti e due. Il mio 850 adesso è in AM, da 100 watt come dà il 440, come dà il 140 e così via, tutto in positivo. In onda laterale da 100 di picco e picco, adesso lavora anche sui 130-140, perché automaticamente facevano l'aggiornamento della scheda madre, quindi delle bande passanti, riesce anche a lavorare meglio in banda laterale. Quindi per dire, ma questa cosa che è successa da poco, radio presa 6 mesi fa, capito? Quando è arrivata, si è mai fallito, c'è cazzo, ma la cagata, abbiamo preso 25 watt in AM, e la gente resta radio. No, aspetta, vediamo, qui e là. Fabrizio ha scoperto tutte le cose, ce le abbiamo fatte, abbiamo aggiornato i filtri, abbiamo aggiornato tutta la parte, vedi, anche della scheda filtro in automatico, nessuno l'ha mai fatta. Questa praticamente tu cambi e passi da una banda all'altra e cambiano i filtri automaticamente, mentre invece prima non lo faceva. L'aggiornamento dell'accordatore in ricezione non c'era, l'abbiamo fatto con Fabrizio, c'è tante cose, però cosa poter fare per lavorare. E ce l'hai ascoltato fare più simile. Buon proseguo, buon tutto. Ciao Riccardo, ciao Gianluca. Buon proseguo, ce l'hai ascoltato fare più simile. Ok, riprendo io. Ciao Francolì, buon riposo, dai. Buon tutto per domani anche, dai, ci sentiamo le prossime, da Francolì, dai, entra più spesso se puoi, ti fa piacere, avanti Cla. Sì, anzi Franco, già si fa sentire tranquillamente, adesso a quest'ora non l'ho mai sentito, ma neanche io, ma mi sono fatto il presentare, adesso no. Diciamo che sono in ferie, quindi me la sto prendendo a girare un po' qua. Senti questo rumore che si sente, come sta la giornata, la ventolina è diventata un po' rumorosa, perché? Perché non è mai stato fatto niente, quindi va dato un pochino di quel grasso bianco in modo che non faccia più questo ronzio così. Va bene, va bene, va bene, capito? O Giallo, ciao Fra, buonanotte, beh, ci aggiorniamo domani. Questo è il sistema tra oggi e ieri, o Giallo. Oggi puoi fare gli aggiornamenti alle radio digitali, anche se a qualcuno non piace, in un modo molto semplice, quindi attacchi al PC, sai che devi fare quello e lo fai. Sull'analogico non è che ci sia molto da lavorare, non puoi fare niente. Cazzardi, vuoi fare una garantura dello smitter, così chiamato vero e proprio smitter, mentre sulla linea digitale o semidigitale, quando si parla di segnalatore o indicatore analogico, cioè digitale, non ho più valuta. Cosa diciamo, lo LED, lì c'è una scheda che dirige la baracca, quindi o cambi la scheda oppure te lo devi risolverlo. Ma che? Ma vero, ma è proprio così. Ma per questione di praticità adesso anche è un fattore proprio quasi indiscutibile. Come vuoi fare? Tutte queste schede sono con questi microcomponenti, siamo proprio quei componentini che hanno i telefonini, ma ti fai un po' di saldare, sì, se magari uno è un tecnico che ripara che cose stanno in fondo di mani, ma secondo cosa vecchio per il piatto trubetto in tre io. Infatti, è così. È così perché all'interno sono completamente diversi. Sono completamente diversi. Io quando ero arrivato al 950 ho voluto vedere qual era la differenza tra un semi digitale e un digitale, ho messo tutti e due vicino, 850 e 950, mi sono consultato già l'uno. Ma c'è un processo interno che è una cosa allucinante, cioè completamente diversa. Quello che sono le schede a doppia conversione del 950, l'850 ne ha una, e due fasi due. Quindi converte in tutti i passaggi delle bande passanti in un'unica soluzione. 950 no, 950 c'è i selettori, scheda per scheda, dove ti danno il passaggio di banda in automatico, non ti vedi che sistema c'è, tutti con cavi con le piattine che si accoppiano uno con l'altro, tipo quelli che c'è del PC, della scheda madre, no? Eccetera, tutti a microprocessori uno vicino all'altro, con questi scambiatori elettronici proprio di commutazione, che ogni scambio c'è, cioè un relè che commuta uno con l'altro, cazzo, una cosa favolosa, 850 rispetto al 950 ha aperto vizzino una grandissima gaggada, eppure uno è semidigitale e uno è digitale, quindi c'è una differenza enorme. Beh, ma anche come peso mi sembra così, se prendi due radio equivalenti, diciamo così, di quelle prestazioni, comunque sia con quegli accessori, che dovremmo chiamare, tu vedi che proprio il peso è ridotto, proprio di questi componenti così sofisticati, sofisticati di ultima generazione, leggerissimi proprio. C'è una sciocca, poi da secondo quello che capita, se uno riuscisse a trovare i pezzi, se lo puoi fare anche tu, perché in queste schede non fai né tanto te le fai, attaccare magari il cavetto che li collega uno con l'altra, o quella specie di cose di piattine come hai detto tu, no? Che sono tutte che entrano proprio negli innesti che ci sono. È facile farlo. Facile farlo, però il problema è che devi anche stare attento a farlo. Ma poi è tutto un sistema completamente legato, c'è proprio una catena di fasce, no? Di quelle fasce larghe, bianche, con addirittura non l'aggancio del sistema direttamente sulla scheda, ma ce ne sono anche due o tre. Quindi c'è proprio una derivazione, perché in mezzo poi c'è il relay che ti dà la comunicazione elettronica, quindi poi ci sono condensatori vicini alla scheda per proprio scaricare la tensione, anziché scaricarla sulla scheda la scarichi sul condensatore di quelli elettrolitici. Ci sono un sacco di componenti molto, molto più grandi, e ce ne molti di più. Quindi non riuscivo a capire qual è la differenza proprio tra semi digitale e digitale, e così ad occhio ho capito che è un altro pianeta, ma poi anche l'indicatore a LED della parte ricevente, una è proprio a LED, quella dell'850, questa no, questo è un indicatore proprio che segnala i movimenti del ricevitore, quindi è talmente sensibile che illumina proprio quello che deve illuminare. 850 è basta 10 watt, 20 watt già tutti a fondo scala, quindi si vede che è proprio una cosa proforme, che è proprio a LED in un preso. È diversa. Comunque, sta fatto che il mondo di prima, secondo me, il mondo di prima della radio, proprio il mondo radioantistico, era completamente superiore a quello di oggi, nonostante che mi dicano che l'era digitale superi quella analogica per mille motivi, io sono d'accordo, ma come vecchie macchine, come vecchie apparecchiature, io ti posso garantire per la mia poca esperienza che le macchine che facevano prima analogiche si mettevano nel culo quelle di oggi digitali a tutti gli effetti. Ma come no, ma come tutte le cose, il fascino è quello che c'era, tutta un'altra cosa era, guarda, anche dalle radio, queste radio, anche queste che ascolti musica, no? Che erano anche di valvolare, li vedi, che so, proprio un ritorno indietro nel passato e un tuffo alle origini per rispolverare, anche io adesso l'ho da poco, no? Girando su internet, giocando da ciappa, lui gira dischi di quando ci cominciato a cantare di Candelo Piccinetto, che andiamo alla zinzola d'ore, no? Che proprio mi gustava a cantare, e io pulivo questi dischi che mi aveva lasciato mio zio quando era partito da fare i carabinieri fuori, pulisco gira dischi da Stereorama, che poi mamma me l'aveva lampato, non so come, in vita che non funzionava, era il magazzino, ho osservato bene, una di andate a cercare non era più, l'altra l'aveva lampato. E l'ho ritrovato tramite queste B, una cosa positiva, diciamo, questa cosa qua, questo sistema di ricerca veramente utile, la verità, questo internet per certe cose si fanno tante cazzate, con queste stupidate di pornografia, di cose che infatti addescano, si intende di tutto e di più, però in certe cose è veramente, guarda, c'è il mondo in casa. E sono andato a trovare, ma che sei cosa, sì, il CD, c'ho il canto a CD, ma figura di gare che non vedo un CD, va, in macchina burro, il turbone, due pecore, sono tutto tanto, ma dando buono un disco, che ti accorcia un disco, ma solo a vederlo girare, andando rubiato, accorciando, così va appena di chiedo fruscio di puntina di cose così, non ho nulla a che vedere, ma proprio una cosa che non si può paragonare, non si può proprio una cosa paragonare per dire questo e dopo per citare anche tante altre cose che erano dell'epoca. Si devo pensare a quelli, quei stereo 2000 veramente, dove mi lasci il legno con questo stereo, mi pareva una gassa da muscio, avevano un'emissione allucinante, c'erano un po' le puntine sempre un po' così, però quanto sta fischiando sta vento, la minchia, adesso domani guardo dove fa pezzi, capito? Era un altro mondo, Fabri, che tu parli di qualsiasi cosa, di quell'era lì, di parte stereo, di parte, ma soprattutto anche la parte meccanica, come erano fatte, come andavano smontate, adesso il cazzo smonti, cosa devi smontare? Ma non si può manco più aprire una radio, oggi una radio di queste digitali, 850, 450, tutte quelle digitali o semidigitali, ma non le puoi toccare, non le puoi neanche aprire, guarda queste analogiche, no? Tu già dirai, no? La fai a pezzi, oggi tu prendi un 140, la fai a pezzi, va avanti, dietro, lato, prova a farlo un 450, un 850 che vuoi bisogni. Non puoi toccare niente perché dietro è tutto spinette, tutti i cavettini che entrano, che escono, qualsiasi potenziometro è collegato diretto con la linea del VFO, tutto. Invece queste analogiche, boom, di nuovo i bomelli ed è già fatto a pizzi, capite? L'unica cosa che stare attento è non toccare il display, perché se sta lì liquido e quindi puoi danneggiarlo, ma quelle tutte le cose sono così. Ma alla fin fine è molto più facile lavorarci anche, sia internamente che esternamente, capito? Gianluca, l'1 e 10, mi pare non va vedato pure troppo. Sì, infatti dai, chiudiamo con quello, hai detto proprio bene, il dischi si chiama quello proprio lì, Stereorama 2000, con le calze in legno, amplificato. Lo pubblicizzava la Red Digest, così distribuito dalla Red Digest, i frontalini in legno, i laretti, i bianchi, lo cosuniette pure i pomelli del passi, del bilance, del treble per muovere gli alti, quelle cose lì, tutto avanti, dopo c'aveva il sistema che potevi mettere 7 45 giri, i singoli, quelli piccolini per intenderci, no? Dentro sopra questo caricatore, lui cassa mano a mano che finiva, si automatizzava, si spostava il braccio, scendeva l'altro, ripartiva. È allucinante. Sì, era proprio quello che usavamo allora, se ti ricordi, nelle salette. Era l'unico stereo che viaggiava in quei periodi, in tutte le discoteche, quelle sacubarate, come te ciao bella, come te ricordi lungo, come il Club 24, si andavano in quei stereo lì. E quindi diciamo che anche in quel periodo lui faceva la sua bella figura, la gran bella figura, perché non c'erano altre attrezzature dove poter registrare, quindi avevi due di quei stereo, quindi lavoravi con due piatti e facevi andare avanti la parte del mixer, che ancora erano un po' così, ma quello che mi ricordo io delle prime discoteche sono state a produttore in zona, tipo Sette Bella, insomma già in un peso, andavano tutti con quello stereo lì, eppure si ballava lo stesso, quindi non era una grande cosa, perché il DJ lì puliva, va via ed era stracumarato, che dovrei farlo adesso solo per muovere tutti quei mix, tutti quegli affari che sono cagate, che più cagate non ce n'è, ti si fascia uno, ti si rompe uno slider, cazzo si è bloccato, non riesci a mixare il sistema, a mandare avanti tutto il bilanciamento, mentre prima pulisci un disco 33 giri, 6-7 canzoni, ti fumavi la sigaretta, ti mettevi cazzo a trombare e nessuno se ne accorgeva, capito? Il sistema era quello, Gianlu. È sempre la differenza tra digitale e analogico, no? Quindi tutto quello che avevamo prima era un divertimento, adesso è un rischio, perché devi stare attento al rompere, devi stare attento a curare tutte le sue parti che vanno sia in trasmissione che ricezione, quindi è sempre una grande cosa, c'è più lavoro, sempre più lavoro, c'è per noi che siamo amanti delle radio, tutto qua. Va bene, dai, chiudiamo qua che l'1 e un quarto, io ti ringrazio della tua disponibilità per questa lunga chiacchierata, mi ha fatto piacere approfondire, parlare di queste cose perché è sempre bello ricordarci quello che avevamo prima e quello che abbiamo adesso. Anche se prima già lui erano i burri che avessimo più poveri, comunque non fa di nulla, l'importante è partecipare di divino, no? E saluto tutti gli esseri dottori all'ascolto e tutti quelli che sono all'ascolto. Buonanotte a tutti da Claudio Sparviero. Gianlu, ascolto finale e poi ci aggiorniamo domani. Contraccambio, una chiacchierata, ha fatto piacere anche a me spendere queste brevi ore così, tanto io domani sono di notte, così che lo stesso non è un problema di alzarmi presto domani mattina, se mi alzo perché mi voglio alzare io comunque sia per altre cose. Sì, è stato un piacere, buonasera da oggi qui a Pordottore, se non è caldo, anzi ti dico che è ventilata, io sono uscito che non c'avevo la magliettina, solo i calzoncini, il terrazzino di fronte qua. E c'era un po' di freschetto, si sente un po' di freschetto, quindi è abbastanza ventilata. Tutto qua, dai, ok, buonanotte, ci ascoltiamo domani, dai, vediamo un po' com'è la situazione, magari tarda mattinata, comunque sia io comunque. Domani mattina esco presto, faccio la mia giretta di consuetudine, poi mi sbrigo due cosettine e via. Ok, buonanotte, dai, a domani, buon tutto e ci aggiorniamo per le, appunto. Bella farsi domani, ciao, buonanotte. Ciao Gianlu, grazie a te, buonanotte, alla prossimina, ciao.